è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Svegliano per me quando tutto sembra poesia, la cruda verità. Le zanzare di casa mia mi adorano perché... L'annuncio di Berlusconi, ma lo sapevamo già, non c'era bisogno di tutta questa enfasi, caro Parenzo, non c'era bisogno. In un'intervista al Financial Times Berlusconi dice che non si ricandiderà, ma insomma non è certamente la scoperta del secolo. E dunque è più interessante analizzare altre frasi di Berlusconi. Dopo aver esaminato le cause della crisi, che non risiedevano in Italia ma nell'Europa e nell'euro, ho ritenuto che se fossi rimasto avrei danneggiato il paese, perché avremmo assistito ad altre terribili campagne mediatiche. Comunque non c'è mai un'assunzione di responsabilità, a dire magari è un po' colpa mia, nulla di nulla. D'altra parte è difficile che gli uomini politici dicano ho sbagliato, è merce molto rara, molto rara. Non si sottrae Berlusconi a questa regola. Ho ancora un fortissimo sostegno popolare, dice, quasi il doppio di Merkel e Sarkozy. Nei sondaggi d'opinione il mio indice di popolarità personale è del 36%, ora vero o no che sia, magari un po' esagerato, però di solito diceva il 60, ti ricordi, il 70, l'80, in alcune occasioni, adesso si è accontentato del 36%. Io però voglio dire subito una cosa, signor Cruciani, dimmi subito una cosa. Le dico a lei e a tutti gli amici che sono imbottigliati nel traffico, bloccati da questa neve siberiana in questa Roma splendida ricoperta di bianco. Cari amici, voi che state tornando a casa e passerete la notte in macchina per tirarvi su, pensate a Cicchitto! Si nutrono di me. Perché dovevano pensare a Cicchitto? Scusa. No, lì si tengono su. Sono lì in macchina, depressi, incazzati. Oh, andiamo! Sta neve ci ha bloccato. Tiratevi su, amici in macchina. Pensate a Cicchitto e alle sue dichiarazioni sulla giustizia. Senti invece il nostro caro amato Polillo, sottosegretario all'economia, il quale per giustificare tra virgolette le sue dichiarazioni dell'altro giorno alla Zanzara dice che beh, insomma, in una trasmissione all'insegna della leggerezza. A me non mi sembrava troppo leggero quando parlava di Berlusconi perseguitato eccetera. Senti, senti le grandi polemiche della Zanzara. Senti, senti. Innanzitutto era una io ho detto nel corso di una trasmissione che era all'insegna della leggerezza. Quindi si stava scherzando, battute, cose di questo genere. La Zanzara. Sì. Amico mio Polillo, quale scherzare? Quale scherzare? Non scherzavi per niente tu. E perché uno per giustificare, tra l'altro non deve giustificare nulla, perché giustamente ha detto quello che pensava. E tra l'altro su molte cose sono anche d'accordo personalmente. Tu no, io sì. Però cosa deve giustificare? Caro Polillo, fatti abbracciare, abbracciamolo fortissimo. Abbracciamo fortissimo Polillo, perché stringiamoci. Non stai ritrattando. Stringiamoci vicino. Nessuno ci può. Senti il nostro abbraccio, Polillo, lo senti? Lo senti, Polillo, il nostro abbraccio, ti abbracciamo fortissimo. Fortissimo. Perché abbandono il mio corpo nudo. Voglio inaugurare una nuova polemica, scusa, una nuova rubrica, che poi è anche polemica, insomma, per carità. Quella su Tremonti, ma che stai a dì. Tremonti, ma che stai. A dopo, la sentiamo dopo. Però la sentiamo aspetta dopo. Un attimo, che ho una notizia. No, le sì, notizie, sì. Le inutili buonasera. Notizie di Parenzo. Buonasera, che... Come sta? Lei è a piedi perché c'è la neve, giusto? Più o meno. Ecco, quindi possiamo dire che sta pensando a Cicchitto lei in questo momento, che sta andando a casa a piedi sotto la neve, giusto? No, chiedi del sindaco Alemanno. Ecco, avanti. Arrivederci, avanti tutti, sto un attimo arrotondando, Ma chiedi di Alemanno, non di Cicchitto, è lui che governa la città, che ha deciso la chiusura di tutti gli uffici pubblici. Adesso mi butto in mezzo alle code, te vabbè, lo prometto. Vabbè. Sì. Allora vi faccio incazzare con questa cosa, Sgarbi, io al vitalizio non rinuncio, mi serve per mantenere i miei figli. Sapete che ha avuto qualche problema con i figli Sgarbi, qualche piccolissimo problema. Grazie al vitalizio, io che non vedo una sola lira di quei danari, posso mantenere 3 figli, cioè i soldi che io ho di pensione sono direttamente versati dal Parlamento ai miei 3 figli, per cui la loro sopravvivenza dipende da quello. Vabbè, ma voglio dire, non è che non è una motivazione, non scusa, è una motivazione per giustificare il vitalizio, cioè non è perché uno ha commesso degli errori, ha fatto figli che poi errori, ha dovuto riconoscere errori sì, perché non li voleva fare i figli, no, vabbè, capito, cioè, sì. Poi ha dovuto ammettere, ha dovuto riconoscerli eccetera, allora sì, poi in questo modo, per questo dice no, il vitalizio mi serve, cioè cose incredibili. Siamo carichi stasera, molto carichi, siamo molto carichi. Un attimo solo, che abbiamo un ospite, aspetta, prima di coinvolgere la gente, non possiamo far aspettare le persone 100 anni al telefono, non solo gli ospiti, anche gli ascoltatori. Tuadi, sai il deputato di colore, no? Voluto fortissimamente da Rotelli, Jean-Louis, come si chiama? Sì, sì, poi è passato al Partito Democratico. Sì, certo. No, forse è eletto direttamente col Partito Democratico. No, è eletto con l'Italia dei Valori, poi è passato al PD, Leonard Tuadi. Tuadi, in Africa ci sono meno corrotti rispetto all'Italia. Adesso, voglio dire, cioè, va bene tutto, però insomma... Questo forse è un po' troppo, comunque. Qualcosa di eccessivo. Il signor Mugabe, ad esempio, il signor Mugabe. Tuadi. Sì, 30 anni fa sono arrivato qua. E hanno fatto un culo così sulla corruzione dei politici africani. È un po' di complessi. Ora me li sono tolti tutti. C'è paragone? No. In Congo mi è successa una cosa del genere? Beh, che qualcuno diroti 13 milioni direttamente da casse pubbliche a quelle private accade, ma confessandolo pure... No. In Africa queste cose non succedono, certo sgozzano le persone, ci sono dittatori che depredano i paesi, per carità, insomma non c'è niente di strano. Rubinetti d'oro, rubinetti. Ci sono 70 d'oro. Morti in uno stadio perché si ammazzano tra fondamentalisti e fazioni varie, però insomma, va bene così. Tuadi, amico mio, perché? Ma che stai a di, Tuadi, fa che rima, ma che stai a di, Tuadi? Vabbè, è con noi Irene Pivetti, buonasera. Che bello. Come sta? Onorevole. No, perché onorevole? Non è più onorevole. Il titolo rimane sempre, come lei mi insegna. Allora dovresti dire presidente Pivetti. Beh, anche no, onorevole. Di onorevole, forse magari qualcuno ricorda che io non lo usavo per fare deputato, anche il nome. E la cosa irritava parecchio alcuni dei miei colleghi. Ma qualcuno come la chiamano oggi? Presidente, onorevole, come la chiamano? Spesso mi chiamano presidente perché è rimasto nell'abitudine, ma non è che il titolo sia minimamente dovuto, insomma. Un però, atto così. Sì, lei fa piacere essere chiamata presidente? No, a me fa piacere. Non è una cosa... cerco, e normalmente dico preferisco essere chiamata col mio nome, il mio cognome. Io credo che tra tutti i titoli signora sia il più bello. Signora è il più bello. Presidente com'è? Un brutto, le dà fastidio? No, non mi dà affatto fastidio. Presidente secondo me è un titolo bellissimo. Per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda fa riferimento al periodo nel quale ho avuto l'onore di poter servire lo Stato, e quindi per queste cose però è un titolo bellissimo, certo. Tutto rispetto. È un titolo bellissimo perché è bellissimo poter servire lo Stato. Sì, è bellissimo. Dunque, essere chiamati ancora oggi presidente le dà comunque un qualcosa, una sensazione di... sensazione. No, perché me lo deve far fare? Ma non è una cosa... Perché uno si deve... Apprezzo l'intenzione che normalmente uno usa per essere... È una forma di cortesia e di gentilezza. Ma chi mi conosce sa perfettamente che io non... No, ma lei certo se ne fregherà del titolo di presidente, però quando uno passa attraversa la strada dice presidente, sì. Come va? Uno si sente un po', no? Come quando mi dicono signor Pivetti, come va? Proprio uguale, il fatto che signor Pivetti è appropriato perché è un nome che è valido sempre. Presidente è una forma, ribadisco, sì, di gentilezza e di garbo che fa riferimento a un momento molto importante della mia vita, ma anche molto trascorso molto tempo fa. Senta un attimo, ma perché vado giù subito in maniera brutale, come siamo abituati a fare? Perché insomma, gli ascoltatori sanno, se non lo sanno lo riferisco e lo dico, lei utilizza, diciamolo subito senza che lo dica lei, per il suo ufficio alla Camera una segretaria ha un ufficio innanzitutto alla Camera dei Deputati da quando non è più presidente, come accade a tutti gli ex presidenti. clienti ed ha una segretaria, lo utilizza per la sua onlus, per la sua attività, come dire, di beneficenza, diciamo così, di aiuto a noi creiamo posti di lavoro per i disoccupati. Benissimo, allora la domanda è questa: perché non si affitta una sede esterna? Anche delle sedi esterne, ma penso di fare un buono di una opportunità che mi pensa viene di fare, scusi che non ho capito, pensa di fare? Un uso buono di questa opportunità. Ho uno strumento come un ufficio in centro, è una cosa molto pregiata, ovviamente, una grande, certo. Benissimo, avendolo, è un privilegio, avere un ufficio al centro. No, non è un è una grande risorsa, naturalmente, è un privilegio se fosse una cosa per me. Privilegio è una parola che infatti fa pensare... è per lei. No, è una cosa che io utilizzo per creare lavoro per persone che il lavoro non ce l'hanno. Io non guadagno né un euro né una comodità. Beh, questo non c'è cosa. Dubbio. Ecco, questo quindi... ci mancherebbe altro che lei guadagnasse dei soldi con un ufficio alla allora, Camera. Allora, perché deve dire che è un privilegio per me? Beh, è un privilegio per perché ci sono tre persone che ce l'hanno, non è che ce l'ha, non è che ce l'hanno tutti. No, ce l'hanno molti di più, ma dipende. Il privilegio si applica a una cosa che mi dà un vantaggio, come dire, rispetto ad altri. Io ho una risorsa a disposizione, un ufficio con una segretaria, avendolo a disposizione, ne faccio un uso che ritengo utile, sì. A vantaggio, ribadisco, dei disoccupati. Ora, privilegio è un termine ovviamente sì. Antipatico, no? Che serve a dire, tu hai un vantaggio ingiusto, io non credo di avere nessun vantaggio ingiusto. Beh, come no, ha un vantaggio, scusi, signora Pivetti, però intendiamoci su questa cosa qua, perché io non sono uno di quelli che va all'attacco come a testa bassa contro qualsiasi cosa, però che non si voglia ammettere che avere un ufficio al centro, anche se a me non mi interessa l'utilizzo, può essere anche l'utilizzo... Ma è una risorsa importante, ma certo che è una cosa... È un grande valore di cui io sono molto grata perché mi fa molto comodo. Certo che mi è molto utile, ma come no? Anche però, vuol dire l'attività. È una cosa antipatica, ha un vantaggio, è una cosa che può essere anche utile, può servire anche per una cosa buona. Perché non ha pensato, che ne so, perché non ha pensato, ecco, bravo Parenzo, perché non ha pensato di lasciare quell'ufficio, magari? Cioè, vuol dire... Non potrei, perché per me è una risorsa utile, perché sarebbe. Non potrei permetterlo, per una onlus avere a disposizione una struttura che non devi pagare è una grande. Cioè lei non si può permettere un altro ufficio? Cioè lei non si potrebbe permettere un altro ufficio, che ne so. Non in centro, certamente non in centro, con le risorse della onlus certamente non in centro. No, con le sue risorse. Sta presente come funziona. Una onlus è una struttura, nel caso nostro, come nel caso di qualunque onlus seria. È una struttura di sì. Tutti i soldi che entrano vengono spesi per i nostri destinatari, non certo per noi che ci lavoriamo. Però mi scusi, lei non è, cioè adesso io non le faccio l'analisi perché lei è un privato cittadino, anche se un ex presidente della Camera forse, però non è certamente priva di risorse per pagarsi un ufficio per una onlus che sia, che ne so, a Milano, a Roma, in un quartiere che non sia Montecitorio. Sono molto volentieri a vedere da vicino come noi lavoriamo e le farò vedere anche serenamente, pur non essendo obbligata a farlo, i nostri bilanci fino al centesimo, perché non abbiamo davvero niente. Ma non il bilancio dell'Ollus, no, i suoi è diverso. Benissimo, i miei, guardi, lei si potrebbe permettere. Scoprirà che sono io che la mantengo in grandissima parte, quindi posso anche farle vedere questo, ma perché deve diventare un atto d'accusa il fatto che io, avendo a disposizione una risorsa, la uso tra l'altro per fare una cosa che io vedo che serve a delle persone che il lavoro non ce l'hanno, cioè non vedo il problema qual è. E in più c'è una persona che lavora e che viene in quel modo, viene messa così a lavorare. Un attimo, solo che ho capito, abbiamo il traffico, torniamo subito. Le zanzare di casa. Bene, siamo qui 800 24 0024 con Davide Parenzo in collegamento da Roma. Irene Pivetti in collegamento da dove? Dove si trova? Sto risalendo da Salerno verso Roma. A Salerno abbiamo presentato una delle nostre iniziative, appunto, per aiutare il posto per il lavoro. Sì, sono Senta, c'è traffico? Sì, beh, immagino. È un traffico normale, ma in questo momento scorrevole, ad essere sinceri. Senta, Presidente Pivetti, voglio chiederle una cosa, ma il fatto che lei utilizza questo ufficio della Camera da tanti anni per questa attività della Ollus mi fa però fare un tipo di ragionamento, chiamiamolo così. Cioè lei in sostanza, come ex presidente della Camera, Parenzo, cioè, appoggiami se vuoi su questa cosa. No, ma infatti anch'io ho sostanzialmente non ha nulla da fare, per non dire un'altra parola, per non utilizzare un'altra quale altra espressione vorrebbe utilizzare? utilizzare. No, nel senso non è un no, cazzo da fare come ex presidente. Al bar si direbbe uno che non ha un cazzo da fare, ma al bar. Cioè come bar, ex, no, come ex presidente. Come si esprime al bar? Io neanche al bar le uso quelle parole lì, però. No, non io, dire... ma al bar le uso, al bar dico le uso. Ma è lei che me l'ha richiesto poi, altrimenti non l'avrei detto comunque. No, ma voglio dire, come in quanto ex presidente della Camera, poi lei non ha niente da fare, perché quell'ufficio lo utilizza con una segretaria per questa Ollus. Questo si può dire, io come ex presidente della Camera in realtà non ho nulla da fare. Allora, non ho nulla da fare perché non rivesto ovviamente, come è noto, incarichi istituzionali e nemmeno politici. Dopodiché appartiene al fatto di essere stati membri di una istituzione, ma qualunque, non è che la Camera si comporti diversamente dalle ferrovie dello Stato o altro. No, scusi, faccio dire, cioè, hai appartenuto a una struttura con un ruolo di vertice, accade con una certa frequenza che tu abbia poi accesso, non so, ai ferrovieri vanno gratis in treno, tanto per dire. Hai un ufficio il cui costo è irrisorio sul bilancio della Camera, non vedo quale sia il grande problema di lasciare un ufficio di rappresentanza. Io ci tengo una Ollus, ma se anche non ci tenessi una Ollus non mi sentirei una disgraziata che abusa di chissà quale. Ma se glielo togliessero sarebbe, se glielo togliessero sarebbe una. Mi dispiacerebbe molto, perché per l'attività delle Ollus è importante poter avere un ufficio lì. Sarebbe ingiusto? Certo che sarebbe ingiusto, perché sarebbe un accanimento simbolico senza nessun valore efficace, cioè a me sarebbe un grave danno, al bilancio della Camera non se ne accorgerebbe neanche. Quindi non capisco motivo, non sa che cosa, io non capisco il vero motivo di questo accanimento, perché davvero non lo capisco. Forse si trattasse di un privilegio per me, perché lei magari fa anche un'opera che è meritoria, perché crea posti di lavoro, eccetera. Ma è l'istituto che forse è desueto, cioè in un momento come questo. Gli ex presidenti dovrebbero a un certo punto uscire fuori da quello, almeno fisicamente da quel palazzo. Lei, ma lei è bravissima, è anche simpatica. Questo uomo di purghe staliniane, cioè uno può anche stare all'interno della Camera dei Deputati dove mantiene le sue reti di relazione. Io lo parlo, non dico per me, lo dico per i miei colleghi che magari frequentano il transatlantico più di me e ne hanno tutto il diritto. Ma è che la polemica non è su di lei, la polemica è sull'istituto, che ex presidente della Camera ha un ufficio con segretaria. Allora io dico, se ci avessi i soldi, se avessi i soldi per poterne fare a meno con indifferenza, potrei anche dire va bene, faccio il gesto simbolico e me ne privo, ma io pretendo che lo tengano gli altri, perché comunque sia è perfettamente normale, sereno e giusto che chi ha presieduto la Camera, il Senato, una istituzione qualsivoglia, conservi con quell'istituzione un rapporto privilegiato. Perché in altri paesi la gente scompare dalla politica, torna a fare il suo mestiere e basta. Ci abbiamo un grande guadagno in questo, cioè, beh sì, assolutamente sì, viene di cacciare a calci. Ma non cacciare a calci, perché a calci? Piuttosto che Casini o altri, ma perché bisogna... Ma non cacciare a calci, perché a calci? Ma perché bisogna impedirgli di mettere piede? Ma no, impedirgli di mettere piede, una cosa è impedirgli di mettere piede, una cosa è avere un ufficio... Io ho un ufficio, posso, lì ho come dire, posso farsi quello che voglio, compreso riceverci persone o colleghi, ripeto. Per l'attività di una sociale. Senta, ma Fini, dunque, chi vuole ridurre questo, o togliere addirittura questo istituto, eccetera, si sta accanendo contro di lei o contro altri? Fini, eccetera, si stanno accanendo? No, a parte che io non credo, io vedo che voi vi state un po' accanendo. Noi. Ma no, poi voglio dire, mi sembra un po' superficiale questo approccio alla politica, dove pensa di risolvere i mali veri, i problemi veri del paese con alcune teste simboliche che devono cadere. Che volete che vi dica, poi dopo volete toglierlo e togliete, la provvidenza mi troverà una soluzione. Non è che questa cosa poi mi leverà il sonno, mi dispiacerà, penserò che è un accanimento ingiusto, ma non è che posso mica farci niente. Senta, un'altra cosa, ci dia una notizia. Sono, qualora Maroni diventasse leader della Lega, sono pronta a tornare in Lega, possiamo dire così? Questo è buono. No, perché ho detto così, ci hanno scritto. È una domanda. Le chiediamo. No, guardi, la Lega purtroppo, con mio grandissimo dolore, mi espulse nel 97, perché nel 97 addirittura, perché mi opponevo alla secessione, che all'epoca era di grandissima moda. E dopodiché anche oggi, anche oggi è di moda. Bene, infatti, c'è stata una specie di damnatio memoria, cioè a quel punto bisognava cancellare il senso che poteva aver avuto. Senta, ma la Padania esiste, signora Pivetti, onorevole Pivetti, presidente Pivetti? La Padania esiste? La Padania esiste come concetto così evocativo, politico, che vuol dire. Come è una cosa ridicola, mi dica la verità. Cioè... No, non credo che sia ridicola, ha un senso, come. Come che? Come parlare di Bubù, come dice Parenzo, come la Repubblica di Bubù, cioè come. Ma no, è un senso di. Vabbè, forse potremmo identificarla con un certo punto di presenza politica alla guida di tre regioni che più o meno insistono su, peraltro sulla Padania un po' vaga, perché il Veneto onestamente non può definirsi padano, ma insomma così, un concetto vago abbastanza inesistente nella pratica, poi no? Cioè, usano tanti di concetti vaghi in politica per dire tante cose. Concetto vago. Cioè, anche lo stesso concetto di federalismo, che ha una sua connotazione costituzionale molto precisa, è stato usato in questi 20 anni come un chewing gum, che si può non c'è dubbio. Senta una cosa, ma per esempio l'indipendenza pure è una follia, è una cosa che non esisterà mai, cioè il nord non sarà mai indipendente, o la cosiddetta Padania. Io credo che senz'altro non sia di attualità, ma soprattutto la mia obiezione non è che gli stati possano cambiare forma quando e come vogliono, ma giusto appunto quando e come vogliono i cittadini, cioè si fa per via democratica. Cioè al nord nessuno vuole l'indipendenza, questa è la sostanza, no? Ma io credo che nell'insieme gli italiani stiano bene come stanno, dal punto di vista costituzionale, voglio dire, dell'unione del territorio nazionale, quindi non mi pare che sia un tema che ha un senso. Al nord nessuno la vuole, su, questa è la realtà. I cittadini non la vogliono, non gliene frega niente dell'indipendenza. Non ci sarà la maggioranza. Cioè, che dicevi, Parenzo? Scusami. No, volevo dire dall'onorevole presidente Pinetti, a chi si sente vicina lei oggi come posizioni politiche? Cioè, potrebbe tornare in Parlamento? Ecco, per chi va. Vorrebbe tornare? Io guardi, ho tanto, veramente non solo molto da fare, ma sono molto affezionata all'attività che sto svolgendo in questo momento, perché ne vedo l'immediata utilità. Ma però lei dice non credo, dunque può darsi pure che no. L'UDC di Casini le chiede: se Irene vieni con noi, Pierferdi. Guardi, quello che rappresenta oggi la scena politica secondo me è molto diverso da quello che si presenterà alle elezioni il prossimo anno. Questo non c'è dubbio, ma lei potrebbe, allora, c'è una possibilità che torni in Parlamento o no? No, non credo proprio. Senta, chi è che le ha chiesto e poi lei non ha accettato di fare ricorso sui vitalizi? Chi è che l'ha contattata? L'ha chiesto un ex parlamentare. Un ex parlamentare della Lega? Un ex parlamentare, se vuole che glielo, cioè, perché non, ve lo trovate, glielo chiedete, gli chiedete se... Sono 26. In questo clima un pelino forcaiolo, cioè va bene se sto sulla graticola io, metterci gli altri non mi sembra carino. Grazie a voi, a presto. Buon viaggio. Beh, però ci mette la faccia, parla, dice, no, risponde. Ma è una persona per bene. Cioè difende il principio, dice, ho l'ufficio e lo uso per questo. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Agli ordini. Siamo qui di nuovo in onda, la Zanzara, caro Parenzo. 800 24 00 24, dove ti trovi ogni volta questa voce che viene da lontano, dove sei? Sì, mi sentite, dottore? Dottore Cruciani? Sì, chi è? Sai, c'è il sogno segretario. Il solito segretario calabrese, lo ricordate in mia? Sì, ricordo. Ma la cottura. Ma non è tanto calabrese il suo accento. Come no, sono calabrese. Ma è un misto tra calabrese e condofore, sogno. Siculo, eccetera. Dov'è? In bagno? Dov'è andato? No, io mi spala la neve. Sapete che c'è sta neve a Roma? Sì, e che c'entra Parenzo con la neve, scusi? Aveva la macchina impantanata. Ma non guida, Parenzo, non ce l'ha la macchina. Come no? Allora mi fottivo. Sì, credo di sì. Allora mi fottivo. Aspettate che arrivavo. Dottore Parenzo, venite. Pronto? Sì, ma dove eri andato? Hai dato il telefono al tuo segretario? Il nuovo capo della segreteria, il signor Angelo. Calabrese, capo della segreteria. Sì. Sono alla 7, bloccato, ma devo ringraziare, questa è una grande azienda, ce lo voglio dire. Lo dico senza interesse, per carità, senza avere alcun interesse. Sono qui bloccato a via Novaro alla 7, non si può muovere. Domani mattina sarò omnibus e quindi dormirò qua vicino a un albergo qui attaccato. Ma che ci vai a fare a omnibus domani mattina, scusa? Vado ospite a ragionare. Perché? Perché vai a omnibus domani mattina? Ma non è niente di meglio da fare che andare a omnibus domani mattina? Ma dormi. Dormono i morti dormono, ricordatelo. Questo è vero. Noi vivi dobbiamo stare attenti e vigili. Guarda che c'è un desiderio, rimanderei il traffico, perché qui è tutto veramente bloccato. Sì, proprio, guarda, è la prima cosa che voglio fare, è mandare il traffico. Io tra un po' esco e per te sotto la neve. Rimandatemi Ferrara sul traffico fra un po', va. Intanto, no, titoli del TG3. Oggi effettivamente è fondamentale. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Centro Italia in tilt per la neve, strade impraticabili, molti treni cancellati, famiglie bloccate in casa senza luce, il Viminale non viaggiate. Roma completamente paralizzata dalla neve, traffico nel caos, 280 km di code, mezzi spazzaneve inesistenti, chiusi uffici pubblici e scuole. Da due giorni decine di tir bloccati dalla neve e dal ghiaccio in una piazzola alle porte di Cesena, la rabbia degli autisti succede solo in Italia. Monti, il posto fisso per me è un valore, ma l'articolo 18 allontana gli investimenti, più equità sociale con la lotta all'evasione. Berlusconi, non mi ricandiderò a premier, mi sono fatto da parte anche nel mio partito, pieno appoggio al governo, può fare grandi riforme, se vado per strada si blocca il traffico. I nuovi sondaggi del TG3, la fiducia al governo, la responsabilità civile dei magistrati, articolo 18, rimborso elettorale, ecco come la pensano gli italiani. La Corte internazionale dell'AIA accoglie le ragioni della Germania e blocca i risarcimenti alle vittime italiane delle stragi naziste, il coro delle proteste. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Nuova rubrica su Tremonti, perché insomma a un certo punto non se ne può più. A Tremonti, che stai a di? Porca puttana, ma perché? C'è il grande cetriolo globale che sta arrivando. Sta per arrivare la disgrazia. Bene, ieri sera Tremonti a Porta a Porta. Capitalismo deriva dal latino caput ed era il capo di bestiame per indicare il limite fisico della ricchezza. La ricchezza era se c'avevi la roba, se la producevi, se la scambiavi, ma erano le cose fisiche. Ho sempre detto è come un videogame con i mostri che arrivano. Ne batti uno e mentre sei lì che ti rilassi ne arriva uno più grande ancora del primo. A un certo punto dentro il Consiglio dei Ministri si afferma una linea diversa da quella che io avevo suggerito. A un certo punto si fa in extremis un decreto legge che ho fatto io in 4 giorni a seguito della lettera apostolica della BCE. Quel decreto viene definito perfetto dal Financial Times. In Parlamento si dice che poi deve essere radicalmente cambiato, c'è una discussione che dura un mese e questo logora oggettivamente la maggioranza. Le zanzare di casa mia. Lerner, Gad Lerner contro Rutelli. Lerner contro Rutelli. Sentite a proposito della vicenda Lusi. A proposito della vicenda Lusi, intervistato dal Fatto Quotidiano, sentite. La cosa scandalosa è che Francesco Rutelli è stato nominato presidente della Margherita e quindi intestatario di quel conto milionario, perché nel voto, nel rapporto congressuale, lui era per il Partito Democratico, per il bipolarismo. Adesso sostiene tesi esattamente opposte, ma vuole tenersi i soldi. Questo si chiama ladrocinio. Il ladrocinio di Rutelli. Il ladrocinio di Rutelli. E poi che abbiamo? Abbiamo Travaglio, che ha già dato la sua condanna a Rutelli, impossibile che non sapesse. Qui è un intero partito gestito a sua insaputa, è un caso incredibile. C'è Rutelli che è cofirmatario del conto insieme a Lusi e dice: ma non sono mica un ragioniere. Ma porca miseria, hai fatto il sindaco di Roma, hai fatto il vicepresidente del Consiglio, hai fatto il candidato presidente del Consiglio e da un estratto conto non ti accorgi che sono spariti 13 milioni di euro. Ma in che mani abbiamo messo l'economia italiana? E poi, napoletani, ascoltatori di Napoli, state attenti. Sentite questa cosa, il presidente del Napoli, De Laurentiis, contro la sua città. Sono più di 20 anni che non state rivivendo un certo periodo di protagonismo. Perché io poi me ne posso pure andare, perché uno così rompe i coglioni e se ne va. E io me ne ritorno. No, tu va. No, però no. Se io devo stare qua... Però tutti quanti dobbiamo stare coi piedi per terra, perché qui a Napoli non funziona un cazzo. Non è che dice, sai, a Napoli funziona tutto, poi c'è anche il calcio. No, a Napoli c'è solo il calcio. E allora ringraziate. Ringraziate e prostratevi pure, naturalmente. Cioè. Vabbè, baciate umilmente. A Napoli non funziona, sapete, va bene. È strepitoso, sono assessori avvelenati a Napoli per le frasi di Laurentiis. E poi ce n'è un altro, ma che cazzo avete vinto a Napoli? Questa è un po' più calcistica. Avvenga perché deve avvenire, ma certo, non è che certo. Devo fare carachiri o devo dire, come molti pontificano, è una stagione buttata nel cesso. Ma chi l'ha detto? Ma chi si permette di dire questi idiozie? Ma che cazzo avete vinto a Napoli? In avete vinto due scudetti e una Coppa Italia. Allora, mi è venuta in mente una cosa che mi ero dimenticato di chiedere, sempre 800 24 00 24, a Irene Pivetti, che è in viaggio e dunque l'abbiamo richiamata al volo. Allora, Irene Pivetti, mi scusi, lei ha detto che utilizza il suo ufficio per l'attività della Onlus. Leggo oggi, credo su Libero.it, su Libero, su qualche altro sito, che in realtà, magari è per la stessa cosa, non lo so, ieri lei avrebbe mandato, ieri o qualche giorno fa, una mail ai deputati, il 21-2 a Montecitorio, l'associazione Calzaturifici presenta lo Shoe Report 2012. Mi farebbe piacere vederti. Per aderire la mia segreteria è a disposizione, scrive lei, segue interno della Camera dei deputati, evidentemente all'interno della sua segreteria. Questa non mi sembra l'attività della Onlus, è una legittima attività di promozione di un evento. Sì, esatto. Dunque non c'entra con la Onlus? No, questo non c'entra con la Onlus perché è un'altra attività che io svolgo, cioè fa parte delle mie attività, cioè io ho detto che ci svolgo l'attività della Onlus, che non significa che io non ci possa fare anche le cose mie. Dunque lei non fa solo l'attività della Onlus attraverso l'ufficio della Camera, fa altre attività anche di promozione di eventi di cui... quello è un evento al quale io, siccome è un evento al quale io partecipo e ci sarò a moderare il dibattito, mi sembrava naturale invitare le persone del Parlamento perché... Beh, scusi, l'associazione dei calzaturifici che ci azzecca col Parlamento? Sarà fatta alla Camera questa presentazione. È alla Camera? Sì, sì. Ah, è alla Camera. È una cosa istituzionale. Non esageriamo. È relativamente alla categoria, naturalmente, dei calzaturieri italiani. Beh, è alla Camera perché lei promuove l'evento in particolare, non credo che sia alla Camera così, diciamo. No, guardi, allora molto spesso, questo accade molto spesso, che ci siano eventi di carattere economico all'interno delle sedi della Camera. Vengono utilizzate queste sale, ma assolutamente d'abitudine, non gliel'ho procurata io la sala, se questo che... Beh, però ha promosso lei l'evento facendo la moderatrice, immagino che attraverso i suoi uffici abbiano ottenuto uno spazio alla Camera. No, lo spazio alla Camera si può ottenere indipendentemente dai miei uffici. Ma ci sono stati questi uffici o no? Cioè, lei ha fatto in modo che ottenessero questo spazio o no? Vabbè, è legittimo, mica sto parlando di cose... infatti, però in questo caso il mio impegno consisterà nella quindi il mio lavoro consisterà nel moderare questo dibattito. Siccome modero questo dibattito, che tra l'altro secondo me ha un suo interesse economico, perché il settore ovviamente è un settore importante, fa parte della mia attività invece professionale. Professionale perché viene retribuita lei per questa cosa, immagino. Io modero questo dibattito che noi ho invitato le persone che riteniamo interessanti in Italia, come molte altre che non sono soltanto i parlamentari, ma un'attività assolutamente trasparente, tra l'altro notoria, che io svolga un'attività di relazione istituzionale per le imprese da quando ho cessato di fare politica, è una cosa nota. Dunque lei svolge la sua attività professionale, dunque viene retribuita, immagino, insisto su questo perché non è un delitto il essere retribuiti, attraverso anche gli uffici della Camera. Sì. Non è strano, cioè lei per la sua attività, oltre alla Onlus, dunque specifichiamo perché non è che c'è solo la Onlus, c'è la Onlus e poi c'è anche la sua attività professionale. La mia attività professionale potrei svolgerla anche da casa mia, perché in questo senso, per il ruolo che svolge la mia segreteria, perché posso farmi le mie telefonate e mandare le mail. Però le fa dalla Camera perché è più comodo e poi perché soprattutto presentarsi come con gli uffici della Camera. Un attimo, precisiamo. Quella mail è stata mandata dalla mia casella postale Camera, la quale casella postale, ammetterete che non ha un costo o pensate che costa anche la casella postale? Ma non è questo, il costo è sempre lo stesso, è solo per capire, cioè non c'è solo l'attività della Onlus, cioè l'ufficio. Anche io fisicamente. E dunque la sua attività professionale. Svolgo anche Adesso però per piacere, perché uso quel computer, la mia attività professionale. nazionale si svolge, in quel caso andando a moderare il corso in una sala presa in affitto da altri, non da me e non attraverso la mia segreteria, si svolge presso altre società che fanno altri mestieri per i quali io intrattengo un'attività regolare. Guardi, uso una parola di lobbista, va bene, io sono una felicissima lobbista perché penso che sia un mestiere professionale molto serio che funziona in tre quarti del mondo. Benissimo. Non posso uscire dall'ufficio nel quale io sto svolgendo l'attività che mi impegna, devo dire, più del tempo che svolgo per i miei clienti. E invece la maggior parte del mio tempo è speso per un'attività di carattere non profit che è ospitato lì perché la segreteria gestisce le relazioni. Ma è normale, non è che uno si può sdoppiare. E via, io là in quell'ufficio faccio anche la lobbista, oltre che le se proprio vogliamo dire, secondo me una funzione interessante e seria di quegli uffici, proprio perché che senso ha mantenere i rapporti tra chi ha avuto o svolto un'attività istituzionale, ha un'esperienza tutto dovrebbe essere però leggermente più chiaro, perché sennò se uno dice all'inizio svolgo solo la mia attività con la Ollus, il discorso si chiude lì. No, c'è anche un'altra attività legittima, assolutamente legittima, e che dovrebbe essere, secondo me, non è colpa sua, più trasparente. La ringrazio e l'abbraccio. Ma è molto trasparente, in generale. Io ne ho parlato tutte le volte, rare che è successo che qualche giornalista gli interessasse per qualche motivo. Io anzi sono ben contenta perché è un mestiere di cui vado molto orgogliosa, perché penso immodestamente di farlo bene. Ma bene, perfetto, devo dare la linea alla borsa. Grazie, devo dare la linea alla borsa, grazie. Eccoci qui, 800 24 00 24. Parenzo. Notizie intanto dalla capitale. Roma bloccata, in particolare la zona di Roma Nord, continua a nevicare. Io sono barricato dentro la 7 al caldo. E niente, questo. Poi adesso andrò a fare delle interviste però qui fuori, alla gente bloccata nel traffico. Andrò a fare le grandi inchieste della Zanzara per capire gli umori della gente bloccata. Ma veramente a noi non ce ne frega niente. Però se tu vuoi fare l'inchiesta lo stesso, falla. A noi non ce ne può fregare di meno. Ma come il direttorissimo, non ti interessa? Non ci interessa. Dobbiamo fare la trasmissione alla radio, non capire gli umori della gente a Roma per la neve. È inverno, c'è la neve, c'è freddo. Qual è il problema? Di che stiamo parlando? A febbraio, nevica. Sì. In estate, caldo, torrido. Poi si bloccano i treni, no? E tutti dicono l'Italia. Ma che i treni si bloccano? Sì, è vero, ci sarà qualche problema in più per la rete, le difficoltà, la geografia. D'inverno, nevicata eccezionale, perché poi ogni anno è tutto eccezionale. Sì, sì, nevicata eccezionale. Però nevica inverno. Caldo record ad agosto, caldo record. Ma porca puttana, ma come cazzo? Io non voglio sentire nemmeno una parola su questo argomento del freddo, delle. No, però adesso vado a fare queste. Mi butto nella nicchia, vado alla Biaccia, faccio tra 10 minuti. Ma io non voglio nessun inchiesta, non c'è nulla su cui. Niente su cui fare un'inchiesta. Sì, fa freddo. È inverno, punto. Sì. Comunque, voi che siete chiusi in macchina e tornerete a casa tardissimo stasera, tiratevi sul morale e alla fine della Zanzara alle 21, ascoltate i discorsi di tutto alla camera. Qualcuno dice non è vero che nevica, sono in coda da 2 ore, il problema sono le amministrazioni che sono incapaci di gestire le cose. Però non lo so. Roma nevica. Sì, c'è un divieto per le auto senza catene dalle 24 alle 12 di domani a Roma. Ecco, ultima notizia, Alemanno, evitare spostamenti. Ma come, la gente è già in macchina, come fai? Evitare spostamenti. Sì, questi sono i consigli più ridicoli che si danno ogni tanto, no? Evitare gli spostamenti. Sì, d'accordo. Hai capito? Ma se sono bloccato lì in mezzo. Addio. Allora, intanto bisogna dire la verità, insomma, la signora Pivetti ha confessato, cioè non utilizza, perché poi non è che ci possono coglionare più di tanto, per carità, lo dico con tutto il rispetto, non è che uno utilizza l'ufficio della Camera non solo per la Onlus, anche per gli affari propri, legittimi, per carità, però uno basta che lo dica prima, no, guardi, oltre alle Onlus per i disoccupati, che poi bisogna sempre vedere le Onlus per la disoccupazione, vabbè, lasciamo perdere questo argomento, per carità di patria lo lascio perdere. Ma può essere anche la Onlus lo lascio perdere perché non mi interessa, sarà una cosa meravigliosa, stupenda. Oltre a questo, però c'è anche il fatto che fa l'attività professionale, per i calzaturieri una volta, per i bubù un'altra volta, è così. Bene, Lores da Vicenza, buonasera, buonasera, andiamo, andiamo. Buonasera a lei, Cruciani. Vada. Allora, peccato non poter interloquire con la signora Pivetti. Sì, qui non veramente si può mai interloquire, sì, con... Però, mai. Però mai. Vorrei dirle una cosa, come direbbe sì, l'amico Bossi. Pivetti, fora Duval, basta. Ma è già dobbiamo fora Duval in realtà. Dobbiamo mantenerla a vita quella gente lì. Guardi che io ho votato Lega fino all'ultima volta, non voterò più quei ladroni lì, dicono ladri di Roma, sono andati giù per rubare a Bambasta. Non ne possiamo più veramente, guardi, non ne possiamo più. Io non voterò più Lega, tutti quelli che conosco, a meno che non ci sia Maroni. E a meno che non ci vada dentro la Pivetti a rubare ancora, perché non voterei più Lega proprio. Voterò Veneto Stato veramente questa volta. Lei voterebbe Veneto Stato, sta messa Veneto bene. Stato, sì, sta messa bene pure lei. Staremo meglio della Sta Svizzera, messa bene lei, cioè lei vorrebbe il Veneto Stato, signora Lores. Sì. Beh, insieme sì, una proposta, come dire, moderna, attuale, soprattutto... Ma guardi che c'è il signor Guadagnin che... Sì, certo, il signor Guadagnin, non c'è dubbio. Non stia a credere. No, per carità, è una cosa meravigliosa, stupenda, il Veneto Stato, è una cosa soprattutto fattibile, moderna, attuabile. Mi lascia parlare. Ma sì, adesso non mi vorrà fare la cosa sul Veneto Stato, con tutto il rispetto, il Veneto Stato, abbia pazienza. Divento, vado ai matti, il Veneto Stato, vado ai matti. No, voglio parlare di un'altra cosa, voglio parlare del signor Gad Lehmer, che la prima volta in vita mia che la penso come lui, che il signor Rutelli, il bamboccione, è ora che vada fuori dal coglione. No, veramente non ha detto così, però comunque insomma. Ora che vada fuori, non ha mai fatto niente in tutta sua cosa, fa lì 13 milioni di euro, non sa neanche che esistono, ma quanti ne rubano? Se Monti non tira via subito i finanziamenti partiti, ma facciamo il movimento dei forconi, Veneto Stato in testa. Veneto Stato, benissimo, Veneto Stato. E andiamo giù e glieli piantiamo dove... Ma sì, dove glieli piantiamo i forconi del Veneto? Ma sul culo glieli piantiamo. Ma sul culo, dai, sì. Culo glieli piantiamo. Dove stiamo si trova? Stiamo arrivando a prenderla con camice bianco, eh? Dove si trova, cara signora? Dica il gallinaccio di stare zitto. Che il gallinaccio! Il gallinaccio! Gentile signora politologa. Senta, signor gallinaccio di Padova, sa che le galline di Padova le sbone, no? Sì, però lei è il gallinaccio, è più stantio e duro. Cara raffinatissima politologa, cara raffinatissima politologa, che vuole il Veneto Stato. Ma se le piace così, Galinaccio. No, a me piace quando la prendono con una barella, la mettono sopra, la sedano e la portano per qualche giorno all'ospedale. Le sare a spritza, champagne, poi dice la gente che è bevuto. Ma lei si è zitto, Veneto Stato, ridicola, Veneto Stato, ridicola, Veneto Stato, il Veneto Stato, ma di chi parla? Va bene, comunque no, Berlusconi... ma è spiegabile perché a quest'ora negli ospedali c'è la mezz'ora d'aria, l'abbiamo già spiegato altre volte. Dopo la minestrina col signor Zaia l'abbiamo spiegato. Dopo la minestrina c'è questo telefono nelle corsie degli ospedali in cui dalle 7.15 alle 7.45 dicono va bene, siete liberi. Allora gli ospiti di questi ospedali psichiatrici vanno al telefono e c'è la linea diretta con la Zanzara. Esatto, 800 2400 e loro chiamano la Zanzara e hanno questa mezz'ora in cui possono dire quello che vogliono. E anche tu dici una funzione sociale, no? No, ma è convenzionato, cioè il Ministero della Salute è convenzionato con la Zanzara, quindi è anche mutuabile questo servizio. Beh, insomma, ci pagano per questo servizio, è una delle fonti di sostentamento della Zanzara. Così la gente per poi dice, Veneto Stato! Sì, va bene, ha ragione, d'accordo. Signora Lores? Sì, sono qua che vi ascolto. Tutto a posto? Ma sì. Camici bianchi sono arrivati? Camici bianchi, no? Penso che siano dalla vostra parte, soprattutto adesso la riportano in corsia. Quanti spritz ha già bevuto il gallinaccio questa sera? Quanti adesso la riportano in corsia, quanto ha già bevuto il gallinaccio? Perché va tutte le sere a bar e poi dici alle persone che telefono che hanno bevuto. Mi sembra un po' incongruente questa gallinaccio. Io comunque non mi offendo, perché non mi offendo. Come lotta, vero, la signora Lores? Lotta. Ah, c'è una notizia che mi è appena arrivata sul cellulare. Dimmi. Sono bloccato nel traffico a Roma, 3 ore con Marcinaro. E chi se ne frega? E chi se ne frega? questo è Liguori che scrive. Come chi se ne frega? Lei è anche maleducata. Chi se ne frega? Ah, lei non sta simpatico Liguori. Lei è una maleducata, allora, ha capito? Ha capito? Ma senti chi parla, ma se le piace così, ma se le piace così. Ma senti, ma senti chi anche, parla. Non mi permette. Lotta come una leonessa, ma signora Lores. La signora Lores. Chi parla? Lores Darkaite, lei, ha capito? Lores Darkaite. Questa è buona, non è male. Lei è Lores Darkaite. Lores Darkaite non è male. Sì, vabbè, cara signora, io invece la voglio abbracciare perché lei mi sta simpatica, no, perché no, combatte come una leone. E poi questo è preoccupante. Mi lasci dire una cosa, mi lasci dire una cosa soltanto sì, ai miei ex amici, tanto leghisti. Che le hanno fatto gli amici leghisti? No, poverini loro, quelli come me che ci credevano, che li hanno preso nel culo come i forconi, stiamo male veramente, stia zitta Galinaccio, stia zitta. Siamo veramente male, stiamo soffrendo, ha capito? Ecco. Ma non votate più Lega, Veneti, votate Veneto Stato. Ma la quale Veneto Stato, Lores? Non esiste. Vabbè, ma sta zitto Galinaccio, vai a berti un spritz che stai meglio dopo, dai. Daniele da Pescara, buonasera Lores. Voglio fare Lores editorialista della Zanzara. Daniele Lores da Pescara. Lores Darkaite. Lores dalla nostra Lores da Darkaite. È la nostra Lores. È numero non so uno. Quanti capiranno questa battuta comunque. Sì, perché c'è Flores Darkaite. Spieghiamo ai tantissimi ascoltatori che magari non conoscono il signor Flores Darkaite. Gravissimo, no, che non lo conosco. Beh, insomma, gravissimo, normale. Uno dei grandi intellettuali che c'è. Daniele da Pescara, buonasera. Buonasera, io sono di fronte a una bellissima spiaggia bianca. E vabbè, che vuole che le faccia, Daniele? Bella, no? Senta, io voglio dire questo. Sì. Monti, giustamente, ma penso giustamente, sì, si sta tirando il collo. Noi tutti ce l'abbiamo con la casta, e quindi la casta che ci sta distruggendo, e Monti non sta facendo nulla contro la casta. Però Monti non sta facendo con nulla. La Pivetti, poverina, che sicuramente fa parte della casta, ma almeno spreca un po' delle sue attività per un service, per servire gli altri, il che insomma, ma secondo me non se l'è presa. Da criticare. Ma nessuno se l'è presa con la Pivetti. Abbiamo amabilmente discusso con il presidente Pivetti di questa storia dell'ufficio della Camera che periodicamente ritorna d'attualità, punto e basta. Non ne facciamo un dramma, non è che abbiamo eletto la signora Pivetti a simbolo di tutti i mali possibili, figuriamoci. Io farei i complimenti a chi si presta per non c'è dubbio. Per il service, per venire incontro a chi ha problemi, insomma. Sempre così, grazie. Intanto il Partito Democratico insomma, ha capito che il governo Monti magari non è proprio quello che si aspettava da un certo punto di vista, e Bersani addirittura ha espresso al presidente Napolitano le sue preoccupazioni. Noi come altre forze siamo leali e votiamo anche se non condividiamo al 100% la decisione del governo. Il PDL invece cerca di rifare vecchie maggioranze, ma così non va. In realtà ieri poi nel voto sulla giustizia, la cosa a cui si riferisce Bersani evidentemente, non è che forse c'è qualche eretico anche tra i suoi. Dunque Bersani dovrebbe guardarsi anche un po' in casa, non solo al PDL, che ha espresso in realtà sulla giustizia quello che ha sempre sostenuto. Non mi pare una grossa novità da questo punto di vista. Allora, ecco, noi uno degli esponenti di punta del PDL, che ultimamente non è che si sente, non si vede troppo, e ex ministro Sandro Bondi, buonasera. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori del programma. Come sta Bondi? Che meraviglia, è tanto che non lo vedo io Bondi. Sono come sta? È sparito un po' dalla circolazione Bondi, no? Dal punto di vista del dibattito pubblico, no? Sto lavorando come sempre. Mi dicono che lavori soprattutto al computer nella sua casa, sì, così ho letto da qualche parte, magari sono stupidaggini che scrivono i giornalisti, non lo so. Insomma, al computer spesso a Novi Ligure più che a Roma, o sbaglio? Beh, io vivo a Novi Ligure, quindi è chiaro che lavoro a Novi Ligure quando non sono a Roma. Ah, ma non ha più la casa? No, una volta l'avevo letto, Bondi. Buonasera, sono Parenzo, come stai intanto? Ah sì, buonasera, dottor Parenzo. Buonasera. Io e te ci conosciamo da 10 anni. Sì, certo, mi fa piacere sentirlo. E c'è anche un affetto reciproco, credo. Sì. Vabbè, adesso non esagerate, insomma, affetto reciproco. Di stima, magari, sì. Vabbè, sì, allora? No, perché io sapevo che lui abitava ad Arcore. Cioè ma no, ma quella è roba vecchia, la famosa stanza ad Arcore. Ce l'aveva, è vero. Senatore Bondi, ce l'ha ancora o no? Sì. Sono tutte favole. Da qualche parte stava ad Arcore, ci avrà avuto una stanza. Sì, certo, ma avevo una mia appartamento. Un suo appartamento che non ha più da tempo, immagino. Non ha più da quando vivo con la mia compagna Madonna Repetti qui a Novi Ligure. Naturalmente. Allora, prima notizia, Bondi, due punti, non vivo più Arcore. Ma non è, non è una notizia questa, è una cosa vecchia. Non ha il senso giornalistico. Oddio, io che devo fare con Parenzo? 30 secondi e torniamo subito, parliamo di politica naturalmente, con ovvio. Sandro Bondi, nella giornata in cui Berlusconi rilascia questa intervista al Financial Times, in cui non è che dica qualcosa di nuovo, perché era abbastanza chiaro che non si sarebbe ricandidato, però la cosa viene vissuta come Berlusconi non mi ricandido più, mi sono messo da parte anche del mio partito, avrebbe detto Berlusconi al Financial Times. Poi bisogna vedere la traduzione vera, eh? Oh, eccoci qui 800 24 00 24 con Sandro Bondi. Qui voglio chiedere subito a Bondi una cosa di strettissima attualità: il PD accusa il PDL di non essere leale, che succede? Ecco, ma ho letto anch'io questa curiosa e singolare dichiarazione di Bersani, che addirittura si appella al Presidente della Repubblica e invoca il senso di responsabilità del popolo della libertà. Ma riguardo poi una cosa molto semplice, che è un voto del Parlamento, c'è stato un voto del Parlamento su questa delicata, importante questione. Annosa anche, no? Annosa, sì, responsabilità civile di magistrati. Quando, voglio ricordare che ci fu un referendum popolare su questa questione. Sì. Fu votato per più dell'80% degli italiani a favore della responsabilità civile dei magistrati, che mi sembra un principio di buon senso al di là di tutto. Infatti credo che nel voto di ieri questo provvedimento, questa clausola, questa norma sia stata votata da molti parlamentari anche della sinistra. Dunque Bersani in qualche modo offende il Parlamento, cioè dicendo che è una cosa che non sta nel cielo né in terra, bisogna diciamo che non ha molto rispetto nei confronti della sovranità del Parlamento, ma io credo, veramente, io non immaginavo cosa non immaginavo? Che una dipendenza del Partito Democratico così forte nei confronti della magistratura, fino al punto da perdere ogni lucidità politica, insomma. Cioè un voto che conferma ancora una volta che c'è una dipendenza assoluta, un legame fortissimo, indissolubile. Beh, io credo che il PD dovrebbe dimostrare nei fatti non essere il partito dei magistrati, ma di essere un partito riformista di governo che affronta delle questioni, che è capace di prendere una decisione libera, autonoma, nei confronti di una riforma della giustizia che viene da tutti, da cittadini e da parlamentari, ritenuta ormai improcrastinabile. Senta, ma la vicenda di Lusi e di questi soldi che non si sa che fine abbia fatto, probabilmente utilizzati dallo stesso Lusi in parte, eccetera, e sono sicuro che le ha fatto venire in mente Parenzo, a Sandro Bondi, la questione della superiorità morale della sinistra, o sbaglio? Sono sicuro, adesso cerco di entrare nella sua mente, caro Bondi. Non è molto lontano dalla verità, ma vede, io al di là della superiorità morale, che naturalmente, ecco, Rutelli può dirsi estraneo a queste vicende, stata, ma quello che emerge, vede, anche da questa vicenda, è che certi politici, certi esponenti politici sono inflessibili, assolutamente inflessibili e categorici con gli altri, e quando le questioni riguardano se stessi allontanano da sé ogni accusa, ogni sospetto. Sta parlando di Rutelli, lei, no? Di Rutelli. Dicendo, diciamo, con una forte indignazione, diciamo così. Beh, però, onorevole Bondi, lei riconoscerà che con Lusi la prima cosa che il partito ha fatto è quello di esperlerlo e di sospenderlo dal partito. Sì, ma io faccio cosa che da voi non è molto avvenuta. Poi, per carità, io sono giustizialista. Anzi, non è mai avvenuta. Io sono, ho detto un'altra cosa, sicuro se io che sono stato messo sul banco degli accusati, sono stato addirittura sottoposto ad una mozione di fiducia personale. Sì, no? Quando era ministro. Quando era ministro della Repubblica, figuri se io adesso voglio fare voglio adottare lo stesso metodo che io trovo un imbarbarimento della politica, nei confronti degli avversari politici. No, io penso che è una cosa molto grave, che però la magistratura, su cui la magistratura deve fare piena luce. Finché non avrà fatto luce, aspettiamo i risultati dell'inchiesta, insomma. Però lei che voleva dire a proposito di Rutelli, cioè del fatto che ha detto io non sapevo nulla, fosse successo ad altri si sarebbe applicato? No, io noto soltanto, io credo nella buona fede di Rutelli, credo nella sua totale onestà. Dico solo che se una vicenda di questo genere fosse capitata ad un esponente del mio partito o a me stesso, sarebbe accaduto l'inferno. Questo è vero, si sarebbe scatenata, secondo me, Parenzo, su questo devi darne atto pure tu, la muta dei magistrati, secondo me, secondo me. Siamo stati distrutti moralmente. Ma infatti io do atto semplicemente a un fatto, cioè che Rutelli è vero che Rutelli è andato subito, è stato chiamato dai magistrati, è andato dai magistrati a spiegare, l'hanno chiamato in realtà i magistrati. Io non voglio comportarmi come altri hanno fatto nei confronti di altri. Ma la differenza fondamentale è che hanno Lusi non fa più parte del PD, mentre persone sottoposte in indagine dentro il PDL sono parte integrante del PDL, non sono stati manco sospesi. Ci sta questa considerazione di Parenzo? Onorevole Bondi, ma glielo dico con l'affetto che sa che provo. No, ma io penso che dobbiamo sempre... ci deve essere sempre un esame di merito, di coscienza. Nel merito, Cosentino, Verdini, vado avanti un attimo con l'elenco, Milanese, aspetti che forse dimentico qualcuno. Ma, vedi, però sono indagini, scusi. Ma certo, c'è la confessione. Di essersi appropriato di 13 milioni di euro. Certo. Anche su Penati ci sono indagini e si è sospeso dal partito, su Penati, per vicepresidente del Consiglio regionale. Ma noi abbiamo delle regole. Lui è stato sospeso dal partito, da voi nessuno è stato sospeso, ma magari avrete le vostre guardi, perché noi riteniamo che certe indagini sono delle indagini, non hanno ancora condotto a nulla di fondato. Quindi anche Penati poteva rimanere nel PD per lei? Io penso, guardi, molto molto sinceramente. Cioè, usiamo un criterio valido per tutti. Se uno è sottoposto a indagine, deve essere sospeso dal partito o no? Ma dipende di cosa si tratta. Ma dipende. Non si può dire sempre così. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito. Dipende, cioè non è che sempre così, dipende da a che punto è l'indagine, che tipo di accusa è, perché cosa è. Signor Cruciani, perché ma è così, c'è caso e caso, che poi nel PDL l'espulsione o l'emarginazione siamo una cosa abbastanza rara, su questo non come c'è dubbio. Ma c'è. Non è mai accaduto, ma magari va bene così. A dopo, pubblicità. Può darsi, anzi sono contento di averlo fatto, la primogenitura di Vendola che stai a dire di Cerasa, perché poi in realtà è vero, spesso Tremonti lo sentiamo discettare di problemi filosofici, io personalmente capisco anche molto poco insomma di quello che dice nelle trasmissioni televisive, che risultano di una noia mortale. Non dice mai ho sbagliato in qualcosa. Perché Tremonti, Bondi non dice mai ho sbagliato? E effettivamente non è che gli uomini politici abbiano questa usanza, per carità, non è il primo. Ce n'è uno più in alto di Tremonti, molto vicino a lei, che non è che dica molte volte ho sbagliato. Però Tremonti in particolare, che è stato al centro e protagonista della vicenda economica italiana negli ultimi anni, non dice mai ho sbagliato. Perché? Ma non lo so, forse perché ha un'altissima stima di se stesso. Forse perché ha un'altissima stima di se stesso. Troppo? Eccessiva? Sì, perché è sempre un errore avere questa eccessiva presunzione nei confronti di se stessi. Io vedo anch'io, osservo che si è così, riveste ormai oggi il ruolo di filosofo della storia, insomma. lo dice con un pizzico di ironia quasi, no? Cioè... Ho toccato con mano, insomma, ho avuto quello che io ho pagato di persone. È stato umiliato, è stato umiliato anche da Tremonti? Ma umiliato, lui ha cercato di umiliarmi in tutti i modi, si è comportato non come un galantuomo nei miei confronti. In che modo? Ma lo sanno tutti. Mi dica, ha rifiutato, diciamo, di ascoltare le mie preoccupazioni, le richieste del mondo della cultura. Il giorno stesso in cui io mi sono dimesso, dopo che avevo pagato le conseguenze di una situazione molto difficile, lui ha aperto le borse a colui che è venuto dopo di me. Ecco, ma come mai proprio si è comportato in maniera, come si potremmo dire, da cafone, da... Come, diciamolo come si direbbe al bar. Cioè, ma come direbbe? No, che parola userebbe? Diciamo che non è stato un galantuomo. Diciamo. Non è stato un galantuomo, ma come mai questa cosa nei suoi confronti? Questa cosa personale, evidentemente, da quello che No, non è una cosa personale, credo che in questo sia equanime. Ecco. Lui in particolare, io cioè è proprio così, lui è proprio così, è equanime, sì sì, è proprio così. Quanto c'è della responsabilità di Tremonti nella caduta di Berlusconi secondo lei, da in percentuale? Ma per me tantissimo, ma cioè soprattutto più che nella caduta del governo Berlusconi, nell'avere allontanato da noi, dal governo, il consenso di molti ceti sociali, cioè ci ha fatto perdere voti. No, ma sanno tutti che la politica economica del governo è stata dettata in gran parte da Tremonti, senza che ci fosse la possibilità di interloquire, di discutere, di confrontarsi. E perché Berlusconi, perché Berlusconi l'ha lasciato fare? Era assolutamente impossibile con lui. Perché Berlusconi l'ha lasciato fare, secondo lei? È comunque Presidente del Consiglio, eccetera. Qual è stata Berlusconi la... è un uomo paziente, ha cercato in tutti i modi di poter parlare, convincerlo, ma io credo che in questo lui, Tremonti, abbia fatto valere in maniera non corretta il suo rapporto preferenziale con la Lega, ecco. Cioè ha giocato, ha fatto un doppio gioco, te dice. Ma no, ha fatto un gioco molto scoperto, molto aperto, lo conoscono tutti, insomma. Cioè ricattava Berlusconi attraverso la Lega. No, non uso questa parola di ricatto, ma il suo rapporto preferenziale con la Lega lo hanno tutti conosciuto, era evidente. E questo ha reso quindi impossibile... è felice che adesso non ci sia più nel PDL, cioè diciamo si è elevato un po' di torno. No, non lo so, questo a me non interessa poco, francamente. Cioè non lo vorrebbe più un candidato del PDL? Io posso dirle che nella prima fase del governo Berlusconi lui non ha avuto nessun atteggiamento positivo nei confronti dei ministri del PDL, dal sottoscritto al ministro dell'istruzione, al ministro della funzione pubblica, al ministro dell'ambiente, cioè ha reso impossibile la nostra vita, pure noi essendo impegnati in riforme liberali molto importanti. Ha reso impossibile la nostra vita. È stato un errore... Anche di Berlusconi, diciamo la verità, anche di Berlusconi. No, Berlusconi non ha responsabilità in questo, purtroppo. Mai nulla. Ha subito purtroppo questa situazione. Ha subito l'accordo, diciamo il patto tra la Lega e Tremonti. Ha subito. Ma sì, in qualche modo questo è un fatto obiettivo, oggettivo, non dico niente di nuovo se dico questo. Beh, però insomma, Berlusconi che subisce una cosa e non prende l'iniziativa per rompere. Subisce nel senso che questo asse Tremonti-Lega è stato un asse molto... molto, molto potente, molto forte. Senta, fosse per lei Bondi, ma Tremonti non sarebbe più come è stato nelle liste elettorali del PDL, semmai ci saranno liste elettorali del PDL, magari. Ma ci sicuro, siamo. Ma io non dico mai questo. Tremonti è un genio, è una persona. Cosa vuole che io si figuri se io pongo delle questioni di questo genere? Io non. Beh, però, non mi permetterei mai di porre delle questioni di questo genere. Beh, io cerco di fare, guardi. Mi ascolti, cerco di fare una riflessione il più possibile onesta intellettualmente, sulla base della mia esperienza, di quello che ho visto, di quello che ho sperimentato. Però uno si aspetta, dopo quello che ha detto, che lei dica, beh, insomma, se fosse una lista del PDL sarebbe strano, perché dopo quello che ha combinato... No, perché questo non posso dirlo, ma perché quello che è strano, vede, è che in una prima fase, diciamo i primi anni di Forza Italia, Tremonti in qualche modo ha rappresentato un po' quasi l'anima, diciamo, di una rivoluzione liberale, no? Con Berlusconi. Poi c'è stata una metamorfosi in cui lui è diventato quello che poi è diventato, insomma, una persona con cui, almeno per quello che mi risulta in Consiglio dei Ministri, era impossibile dialogare. Impossibile dialogare, cioè troppo pieno di sé, lei dice, troppo pieno di sé. No, ma non c'era l'obiettiva possibilità di un dialogo fra ministri con lui. Insomma. Cioè quello che diceva lui era legge. Non si discuteva neanche, cioè, almeno per quanto mi riguarda era così. Era Bibbia. L'errore che io ho fatto, glielo dico chiaramente, è che non avrei dovuto aspettare la mozione di sfiducia che poi hanno presentato contro di me, avrei dovuto dimettermi subito quando ho visto che non c'era alcuna possibilità di convincere sulla base di buone ragioni il ministro dell'economia e di far valere le ragioni del mondo della cultura. Ecco, forse ho atteso troppo e avrei dovuto dimettermi immediatamente. Senta, ma è vero che qualcuno voleva che indire questa manifestazione di piazza che poi non è stata indetta sulla questione della giustizia? Nessuno ne ha parlato, nessuno l'ha posta, è una cosa che non so come sia venuta fuori. Ma lei andrebbe in piazza sulla giustizia per Berlusconi? Ma non mi sembra che sia una questione oggi all'ordine del giorno. Non cioè sarebbe sbagliato indire una manifestazione? Non mi pare che sia né utile né opportuna in questo momento. Ah, ecco, né utile né opportuna. Ma lei ha paura dei magistrati? No, io ho paura di una giustizia come che in Italia è una giustizia che non garantisce i diritti dei cittadini, che è un peso, che è una barriera allo sviluppo dell'economia. Ma se si trovasse davanti, Dio non voglia, la signora Boccassini, ad esempio, lei avrebbe paura della Boccassini? No, paura della Boccassini in quanto persona, il problema non è la persona, il problema è del sistema della giustizia in Italia, che ripeto, non garantisce i diritti dei cittadini, di tutti i cittadini, di quelli che sono ricchi e di quelli che non lo sono. Senti, il processo Mills, come lo definirebbe lei in maniera sintetica, in una parola? Un processo Mills le fa schifo, le fa ribrezzo? È come il processo SME, io penso che se ci fosse dal dibattimento è emersa l'assoluta infondatezza delle accuse del pubblico ministero e il fatto che sono emersi dei dati che d'accordo, però come tipo di processo, come tipo di processo le fa schifo, cioè una cosa un processo fondato su dei teoremi politici. Teoremi politici, solo politici. Sulla volontà di giungere a una condanna del Presidente del Consiglio, tutto qui. Io voglio leggerti una cosa, vediamo se il nostro che fai? Una rima di Bondi? Che vuoi fare? No. Ignara bellezza, rubata sensualità, fiore reclinato, peccato d'amore. Ignara bellezza, rubata sensualità, fiore reclinato, peccato d'amore. A chi era? È la poesia che ha scritto l'onorevole Bondi, dedicata a, vediamo se se lo ricorda. Ho scritto delle poesie più belle, diciamo così. A Michela Vittoria Brambilla. Addirittura. E ne ha scritta una anche per Cicchitto, che io voglio leggervi. No, per Cicchitto no. Pure per Cicchitto, com'è possibile? Per tuo amico Cicchitto, Parezzo. Sì. Viviamo insieme questa irripetibile esperienza con passione politica autentica, con animo casto e con la sorpresa dell'amicizia. Ci mancheremo quando verrà il tempo nuovo e ci rispecchieremo finalmente l'un nell'altro, quando i comunisti non saranno più presenti nel Parlamento. Ma te la sei inventata tu questa qua te la sei inventata questo tu. Questo finale quasi. Questo finale quasi. Te lo sei inventato tu. Sì, senta, molto, ma... questo non è gentile da parte vostra. No, ma lei noi non siamo gentili per definizione. Senta, ma le poesie le scrive ancora, le rime per Berlusconi? Sì, questo è importante. No, le poesie le scrivo certamente le poesie, ma... non le pubblico più e sono una cosa mia e della mia famiglia. Ma per Berlusconi le scrive ancora qualcuno? No, non scherziamo su questo. Ma come no? È una cosa scherzosa, se non è scherzosa. No, vuol dire che ci sono tante persone che scrivono poesie, io sono fra quelle. Ma... No, ma certo, perché mica sto dicendo che lei è un pazzo, sto dicendo che... Non c'è niente di male, no? Assolutamente. Però credo che sia... Ripeto, vede anche qui, no? Se un esponente di sinistra fosse, avesse scritto delle poesie, sono sicuro che sarebbe stato considerato un animo gentile, un animo nobile, una persona colta. Invece su di me si fanno così un po' delle hilarità, insomma. Magari sa che cos'è? Che lei a un certo punto ha cominciato a pubblicare su Vanity Fair. Ha ragione. Quello è stato un errore? Ha perfettamente ragione, sì, è stato un errore, sì. Ah, non avrebbe dovuto, è stato un errore pubblicare le poesie. Anche perché si è esposto al dileggio, si è esposto un po' al dileggio. Sì, è vero, sì. Senta... Cruciani, per esempio, ha mai letto un libro di Veltroni? No, ma figuriamoci, sei impazzito. Sei diventato pazzo. Lei l'ha mai letto, Sandro Bondi, un libro di Veltroni? Sì, ho letto, è molto bravo. Questa... Va bene, dopo il traffico concludiamo con Sandro Bondi. No, che traffico? C'è la pubblicità. Allora, devo dire una cosa, caro Parezzo, che stamattina stavo guardando come al solito, appuntamento fisso, Agora, non cominciare a fare la solita cosa perché tu lavori alla 7, io guardo sempre Agora, no, ma io la sono mattina. Perché le persone... Che vuoi fare? Mi vuoi ammazzare? Mi vuoi ammazzare? Guardo sempre Agora. Liberale, ma non ecco, appunto, dato lo so che lo guardi anche tu. Io guardo Agora, Omnibus, Rai, io scanalo il telecom, è la democrazia. Ma no, ma io non scanalo, guarda Agora perché mi piace Agora. Allora, guardo Agora. Ma non è un reato. E però devo dire, condotto da il nostro amico Andrea Vianello. Allora, ho notato questa mattina una cosa domani che si ripete spesso, si ripete, non c'è Agora domani, si ripete spesso, cioè dire la tregenda, secondo me, delle giacche di Andrea Vianello. Allora voglio fare un appello ai dirigenti di Rai 3, un appello agli autori della trasmissione di Vianello. Fate cambiare giacche ad Andrea Vianello, mette delle giacche terrificanti. Oggi, questa mattina, era una giacca color ruggine, con delle righine nere, una cosa agghiacciante, maglioncino nero d'ordinanza, molto carino, eccetera, eccetera, ma una giacca color topastro, una cosa terribile. Hai capito, Vianello, e questi sono gli amici. È una cosa scherzosa, sì. Ma è una cosa... Avanti. Vianello, cambia le giacche. Un appello a tutta Rai 3, agli autori, collaboratori, facchini della trasmissione, esperti, come diceva Totò, fate cambiare giacca al vostro conduttore. Uno stile un po' più, no? Un po' più British, sta giacca. Brioso anche di mattina, cosa, no? Pazzesca, una cosa pazzesca. Vabbè, torniamo a noi. Dove eravamo? Eravamo... Signor Bondi? Sì, come no, è qui per noi. A Roma o a Milano? O a Novi Ligure? Dove si no, trova? No, sono a casa Novi Ligure. A casa Novi Ligure. Senta, c'è un po' di ingratitudine nei confronti di Berlusconi? Berlusconi recentemente. Facciamo così, lei che è abituato, no, anche alle citazioni, non dico letterarie, ma insomma si appassiona di libri, ha anche una rubrica su Panorama, cioè comunque scrive frequentemente di libri, le voglio chiedere, ma possiamo fare un girone degli ingrati per quello che riguarda Berlusconi? Perché io lo so che lei, cerco di entrare nella sua testa, ogni volta che c'è qualcuno io cerco di entrare nella sua testa, magari mi sbaglio, però sono sicuro che lei recentemente, nella parabola conclusiva della vita politica di Berlusconi, diciamo la verità, perché è conclusiva, no Bondi? No, si sta concludendo questa parabola politica. Beh, diciamo, c'è sempre un termine per tutti, era proprio questo non c'è dubbio nella vita, però si sta concludendo la parabola politica di Berlusconi. Questo non credo si possa dire. Ma come non si può dire? Lo dice anche lui al Financial Times. Ma lei ha anche visto che il presidente continua a svolgere un ruolo politico, una responsabilità politica, quindi sì, d'accordo, si occupa del partito. Mi pare che abbia deciso di non svolgere ancora un ruolo politico. Mi pare che poi questo ruolo sia oggi necessario e venga anche riconosciuto, diciamo, dal Presidente del Consiglio, sia stato riconosciuto dal Corriere della Sera. Siamo nella parabola finale. Che se anche la sinistra riconoscesse il ruolo positivo che Berlusconi ha svolto in questo periodo, credo che la vita politica ne beneficerebbe. E come lo potrebbe riconoscere? Per esempio, è tramontata definitivamente l'ipotesi di Berlusconi Presidente della Repubblica, secondo lei? O ancora c'è spazio? No, non lo so, io non ne ho mai parlato. Io queste cose credo che sia un azzardo parlare di queste cose, perché sono delle cose che nascono attraverso vie imprevedibili e tortuose della vita e della politica. Imprevedibili e tortuose. È inutile parlarne. E invece senatore a vita potrebbe essere una cosa molto attuale, qualcuno ne ha parlato, perché Napolitano, in fin dei conti, un uomo di centrodestra, senatore a vita, uno anche coinvolto nella vita politica, non c'è mai stato negli ultimi. Perché Napolitano potrebbe. Nel futuro non si può escludere con una cosa di questo genere, ma non credo che sia una cosa, non di adesso, credo che non c'è bisogno in questo momento di nominare Berlusconi è senatore a vita. Il presidente Berlusconi è un parlamentare, un leader politico, ancora ha un ruolo nella vita politica italiana. Però al tramonto, però me lo dica Bondi, perché lo dice anche lui. No, ma io non uso queste parole di tramonto. Io no, siamo nella parabola ormai finale, no? Si può dire. Ma questo. Non parlerei nemmeno di parabola finale. Fino alla fine di un percorso. È di cattivo gusto, diciamo. No? Ma perché di cattivo gusto? Perché è un leader politico che sta svolgendo ancora oggi un ruolo importante per il nostro paese, ancora necessario, indispensabile. Tra l'altro, lui ha detto: sono ancora giovane, gioco a hockey con Putin. Ha fatto vedere addirittura un libido, sono ancora giovane, 75 anni. È un sentimento soggettivo. Vabbè, sì, assolutamente, per carità. Poi dice anche, ha detto sempre al Financial Times, una cosa interessante, che sono un pericolo pubblico, blocco il traffico. Questo è bellissimo, se vado per strada blocco il traffico, sono un pericolo pubblico. È vero, questo si riferisce alla, quando esce a fare shopping, ha detto. No, si riferisce ai sentimenti di calore, di affetto che lui riceve quando si muove nelle città, quando si reca in un posto. Secondo lei Bersani non ha lo stesso effetto? Ho visto, sperimentato, insomma. Bersani non ha lo stesso effetto, secondo lei? No, in questo senso nessun leader politico ha un effetto di questo genere. Come solo Berlusconi. In questo senso, non c'è dubbio. Può constatare facilmente, insomma. Nel bene o nel male non c'è niente. È difficile immaginare che sono Cicchitto che passeggia per gli altri. Oddio, ma sei fissato con Cicchitto? Perché sei così fissato con Cicchitto? Dire, lo vogliono abbracciare. Ha un'ossessione per Cicchitto. No, parezza. È una persona intelligentissima, tra l'altro, è anche molto dialettico e mi piace molto. Senta, però definire Scilipoti e Razzi dei cavalli di razza della politica, Bondi, abbia pazienza. Questo no. Cavalli di razza, non credo che abbia usato questa tecnica. Come no? Cavalli di razza. Faglielo sentire. No, perché per carità di patria non lo faccio sentire. Perché no, faglielo sentire. È stato agghiacciante. Se non ci crede, faglielo sentire. No. I cavalli di razza, diciamo, erano. Credo che fossero i Fanfani, Aldo Moro, insomma. Conosci Scilipoti e Razzi, insomma, diciamo. È un po' difficile, no? Ma come mai Berlusconi? Come mai Berlusconi dice. Ma no, forse intendeva dire che sono persone che hanno fatto delle scelte di responsabilità per il futuro del paese, garantendo l'appoggio al governo, insomma. Ma ha detto proprio cavalli di razza. Cavalli di razza. Che Berlusconi è sfuggito, non ho sentito. Non ha sentito. Si vede l'entusiasmo in quel momento. Però mi dica la verità, da quando non è più ministro, da quando è così, lei ha più tempo per la vita privata con la sua compagna, questo si può dire? Sì, sto molto bene, sono molto più sereno. Molto più sereno, più tempo per tutto, più tempo. Anche perché la vita politica italiana è avvelenata. Che c'ha? È una cosa, guardi. Perché? Ma lo vedono tutti, insomma, c'è la possibilità. Io penso che c'è bisogno di cambiare tante cose in Italia, c'è bisogno di cambiare certamente l'economia, ma c'è bisogno anche di cambiare il modo di fare politica in questo paese. Troppo odio. Bisogna ritrovare il gusto di una politica diversa, una politica che, che parli intanto che parli dei fatti del paese, dei problemi veri, sì, del paese. Però quello che sta avvenendo, quello che sta avvenendo. Che parli con competenza, appunto, e con un dibattito civile. Beh, tutte cose che mancano, che sono mancate finora. Speriamo che con questo governo e nel futuro, come ha auspicato anche il presidente Monti, le cose possano cambiare anche da questo punto di vista. Senta, però mi dica, abbiamo il traffico e poi davvero, davvero la libero, però sono curioso perché sentire Bondi alla radio non è una cosa così, no? No, a parte che è molto interessante, c'è una voce, bella voce molto radiofonica, molto calda. Credo che gli Scilipoti, i Razzi e gli altri siano davvero un esempio che ci conforta. Credo che leggendo questo libro voi riconoscerete in lui un cavallo di razza che non ha paura di nessuno e di niente. Cavallo di razza, beh, le ho voluto fare male, Bondi, ho voluto rimandare questa cosa sui cavalli di razza. Generoso è stato. Troppo generoso con Razzi e così. Ma Berlusconi è così, è molto generoso, no? Sì. Persona sì. Generosissima. Sì, è solitamente generoso, molto generoso. Senta, ma anche con lei è stato generoso? Generosissimo, sì. Ma anche dal punto di vista economico? Adesso sono cattivo. No, dal punto di vista morale è stato generoso. Anche economico? Morale, anche economico, nel senso che mi ha consentito di fare parlamentare, certamente. Da questo punto di vista? Da questo punto di vista, sì. Possiamo dire che la sua vita è cambiata da quando ha incontrato Berlusconi, possiamo dire? Non c'è dubbio. Certo. Ma non soltanto la mia vita, ma certamente ma anche la mia vita è cambiata da quando ha incontrato Cruciani, ad esempio. Beh, sì, non è proprio la stessa cosa, comunque. Ma è uguale. Io credo di essermi... di avere meritato ecco la sua fiducia, ecco, spero. Senta, ma nella categoria degli ingrati chi metterebbe? No, è troppo facile questo gioco. No, come è troppo facile? No, lo dica. Dove si può dire? Ma non lo so, cioè, se lei mi costringe... La costringo. Vuol dire, le faccio un nome, Gabriella Carlucci, vogliamo dirlo? So. Quella lei è il top? No, non è il top dell'ingratitudine. Beh, è il top, ma direi che... Ma due persone che mi hanno veramente colpito. Esatto, chi c'è? Sono stati Gabriele Carlucci e Chiara Moroni, questo veramente. Beh, Chiara Moroni perché, scusi? Beh, come no, Chiara Moroni era entrata per Berlusconi in Parlamento. Ha fatto una scelta ragionata proprio anche in virtù del suo vissuto. Vabbè, no? Secondo te ha fatto ragionata, secondo voi? Assolutamente sì. Queste sono due vicende che mi hanno molto colpito, perché non pensavo che fosse possibile una tale smemoratezza di quello che nella vita è. Accade a noi, insomma. E Formigoni potrebbe essere uno che diventa un po' ingrato. No, ma che c'entra? Formigoni non c'entra niente. Formigoni è un leader politico che esisteva, diciamo, prima che ci fosse Berlusconi, esisterà anche dopo. Maroni? Ma no, perché sono dei leader politici che hanno una propria autonomia, una propria opinione politica e con loro occorre confrontarsi. Però anche lui un po' ingrato è stato dal suo punto di vista, magari, no? Nella vicenda... Non mi pare, no? No, mi pare. Con Berlusconi, no, no. Ma no, ma sai, una cosa è l'ingratitudine, una cosa sono... Le posizioni politiche, dice. La legittimità di avere delle idee politiche a volte sì. Diverse. Questo è vero. Senta, magari anche la Moroni a un certo punto ha capito... No, che... ma no, è una cosa diversa. Io non voglio entrare perché è una cosa anche molto, molto triste, ma certamente per me... Cioè, miserie umane, dice lei? Ma no, miserie umane non uso questa parola. Io direi che sono cose che mi hanno profondamente colpito perché non pensavo possibile dimenticare quello che di buono ci è accaduto nella vita. Senta, per merito di un'altra persona, dice lei, no? Sì, sì. Per merito di un'altra persona. Senta, ma lei definirebbe Berlusconi il più grande statista dal dopoguerra? In che posto lo metterebbe come statista? Non l'ho chiamato io, il Corriere della Sera, Pierluigi Battista, qualche giorno fa l'ho chiamato statista. Certamente statista, è uno dei leader politici del dopoguerra più importanti. Basti pensare soltanto alla durata dei suoi governi. Ma insomma, in che posto lo mettiamo? Tra i tre più grandi statisti del dopoguerra? Che ne so, adesso noi sintetizziamo sempre i giornalisti. Lo io penso siamo. Che, guardi, io penso che ce ne sono tanti di nel podio c'è, nel podio c'è. Di statisti, certamente... nel senso di uomini di governo che hanno avuto anche un peso, una responsabilità a livello internazionale, certamente dopo De Gasperi, certamente Silvio Berlusconi può essere nominato fra questi. Dopo De Gasperi c'è Berlusconi. Molto dopo De Gasperi. Vabbè, molto dopo. No, poco sotto, diciamo, poco sotto De Gasperi. Cioè, non è importante, insomma. Dopo De Gasperi anche nel senso cronologico. Bossi l'ha definito una mezza calzetta, ma come mai? Della è il linguaggio di Bossi ormai. Siete stati alleati per tanti anni però. È finita questa alleanza, Bondi? Sì, è finita, mi dica la verità. No, non credo che sia finita. finita, nessuno può dirlo. Dopo Monti non si torna indietro. Dopo dipende anche dalla Lega, dipende naturalmente, non dipende solo da noi. Per quanto riguarda noi, io penso che il PDL crede ancora nella possibilità di un'alleanza con la Lega. D'altra parte, quello che accade in Parlamento dimostra che un accordo con la Lega sul piano programmatico esiste ed è forte, solido. Senta, però un'ultima cosa, mi dica la verità, i versi a Berlusconi li scrive ancora? Io sono sicuro che ancora qualche poesia, qualche rima la... No, guardi, non ho bisogno di scrivere linee a Berlusconi, cioè, mi creda. Vabbè, le ha fatto, io, però. Il rapporto con Berlusconi è un rapporto, va al di là della politica ormai, è un rapporto molto, è un rapporto di profonda amicizia e di affetto, ecco, e basta. La politica in questo momento conta molto meno per me. E che cosa conta con Berlusconi? Un rapporto umano. Umano, molto umano, sì. Di affetto. Sì. Ma com'è l'uomo giù in questo momento? Un po'... No, non è giù. Pieno, ha voglia di combattere, ancora lotta. Con un grande temperamento, con una grande ironia, anche perché è una qualità molto importante delle persone, l'ironia. Va bene, grazie. Grazie a voi. Volevo capire solo questo. Buon lavoro, grazie. Scusi, un attimo solo. Che vuoi, Parenzo? Sì. Che vuoi ancora? No, la cosa secondo me è che tutti gli italiani che sono bloccati in macchina, cosa mangia stasera Sandro Bondi? Della frutta, mangiamo della frutta. Solo frutta. Manuela e io oggi abbiamo deciso di mangiare della frutta, sì, sì. Solo frutta. Ti consiglio di mangiare frutta, anzi, perché ho letto questi giorni un medico importante, non ricordo il nome, che dice a tutte le persone, dice 5, raccomanda mangiare frutta, sì. E fare 30 minuti di moto al giorno, di camminata al giorno. Ecco. Sì. Quindi possiamo dare alle agenzie quando ha finito l'attività politica, quella diciamo dire in front line, diciamo, in prima così, sta facendo una dieta? No, non sto facendo una dieta. Grazie anche a Manuela, sto pensando di più anche alla mia salute, alla nostra salute. Stiamo molto bene, guarda. Dunque, che fa? È diventato vegetariano, no? Sì, un pochino, sì. È diventato vegetariano? Beh, questo è buono. Non completamente, ma il pesce lo mangia. Si sta avvicinando, diciamo. Si sta avvicinando, insomma. Sì, non è che si fa crescere anche la barba e si mette la tunica bianca, poi, vero? No, questo no. Giuro che non lo farò. Sapere, è ancora coordinatore del PDL. Questo è incredibile. Ormai è una cosa che non fa più, Bondi. Cosa vuol dire coordinare il PDL? Cioè, tra i tre ancora, ormai è una carica che non esiste più, o no? Bondi, praticamente con Alfano non esiste più. No, io do il mio contributo al partito, se ci mancherebbe altro. Lei lo coordina e portavoce nella politica non è che bisogna essere sempre in prima linea, si può dare un contributo in modo diverso. Io penso di poter dare un contributo oggi più corrispondente alla mia sensibilità. Comunque la cosa interessante è questa, insomma, sto per diventare vegetariano, mi sto avvicinando a questo modo. Come no? Però è una buona, ho scoperto che è un modo di vivere più sano e più rispettoso del creato. E Berlusconi che dice di questa scelta? Berlusconi che dice? No, è contrario. Sarà contrario. No, non ho chiesto il permesso. No, vabbè, permesso no, addirittura. Ma non questo. Va bene, grazie. Grazie, pubblicità. Grazie anche a voi, grazie. Siamo qui alle 20.33 dopo aver appreso che Bondi è sostanzialmente diventato vegetariano, caro Parenzo. È stata... non lo dico io, cioè non dovrei dirlo io, ma questa che fai è una bella trasmissione. Va bene, Raffaele da Brindisi, stai zitto. Raffaele da Brindisi ci vuole parlare, prego, dica. Luciani. Sì. Io dovrei chiamarla Martello del Demolitore, perché ha un'arma molto importante, è la dialettica, e riesce a demolire tutti. E questa sua dialettica la dovrebbe usare un po', non solo con i politici, ex politici, che sono come delle bombe nucleari. Sì. E dopo l'esplosione per fatto il danno fisico, voglio rimanere in zona con le radiazioni, e questo lei sta cercando di cancellarlo. Non ho capito, cosa qui ma lo sa che non fatta anche, dovrebbe essere fatta anche un po' più continuamente con tanti altri enti. Ad esempio, ecco, io sono un autorevole straniero, il governo ha detto che vuole privatizzare. Cioè, cosa vuole privatizzare, scusi? Il problema si sposta. Ma cosa vuole privatizzare, cosa? Il trasporto. quelle locali, quelle locali, certo, assolutamente locali, sì. Ecco. Magari fatto, fosse così. Che non fa altro che aumentare il problema. Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Ma se mi fa parlare gli spiego perché. No, guardi, non abbiamo tempo perché? Per parlare di queste cose. No, non vuol far parlare perché se vuole per forza dire quello che... No, ma non abbiamo tempo per parlare della privatizzazione delle aziende di trasporto locali, che peraltro ancora non è stata fatta e chissà quando si farà. Le faccio capire cosa voglio dire. Lo spettro che politici, consigli di amministrazione che sono politici, lo faranno ugualmente, perché il privato quando prenderà l'appalto dell'azienda da gestire... Raffaele, non si sente niente. Bastiano da Foggia. Buonasera, professor Cruciani, buonasera. No, professor Cruciani mi sembra troppo, grazie. Direttorissimo, buonasera. Ecco, quello sono sì. Lieto di parlare con voi. Sì, io vada. Sono un grande ascoltatore, un appassionatissimo ascoltatore della Zanzara. A noi ci fa molto piacere questa cosa. Siete meravigliosi, però si capisce che è una brava persona, si capisce subito. Però attenzione, vi voglio fare due osservazioni, due preghiere. Sì. Allora, la riflessione, osservazione una è questa. Sì. La onorevole Pivetti fa bene a farsi chiamare signora, perché ha mandato a quel paese la Lega, ha fatto il suo dovere. Poi, avendo ricoperto la carica di Presidente della Camera, va bene, come beneficio, come conseguenza onorevole, va bene? Così come i senatori a vita si beccano un bello stipendio, i vecchi presidenti della Repubblica rimangono senatori a vita e si beccano un bello stipendio, lei deve domandare a questi ultimi che cosa ne fanno dei soldi. Invece la signora Pivetti, la cameretta che le hanno dato lì al Parlamento, cameretta, come diritto insomma, cameretta è lei quella... lo usa sì. A beneficio dei disoccupati. Allora, ma a beneficio dei disoccupati è tutto da dimostrare. Il fine è nobile, purché non transitino né droga né prostituzione là dentro, anche se i calzaturi fisici qualche volta entrano come pubblicità, va bene, fa parte del gioco. Voi fate pubblicità e incassate. La signora Pivetti, va bene, se capito, ma no, amico, lo faccio a spese dello Stato, io abbia pazienza, Bastiano, è un po' diverso o no? Cioè, che il paragone qual è tra la pubblicità che facciamo noi e quella che fa lei ai calzaturifici dentro l'ufficio della Camera? Fermi tutti. Voi facendo la pubblicità incassate, no? Beh, ma che c'entra, scusi? La Pivetti fa transitare qualche calzaturifico. Ho capito, ma quella è la sua attività professionale, viene pagata per fare la testimonial. Abbia pazienza, Bastiano. E utilizza gli uffici della Camera, ma di che parliamo, su? Ma per niente, voi cosa fate per niente? Niente, no? Ma che c'entra? Allora, ma perché non capisce? Questo che mi dispiace. No, mi dispiace che non la signora Pivetti, così come gli ex presidenti della Repubblica si beccano uno vitalizio, la signora Pivetti c'ha una camera a disposizione, purché non commetta illeciti, va bene tutto. Ho capito, no? Ma non è che va bene tutto purché non commetta illeciti, altrimenti va tutto bene, che vuol dire? Bastiano, non può essere l'unico metro di giudizio. È benefico, cioè cerca di mettere a lavoro a qualcuno. Guardi, poi, senta, gli scopi benefici non è che li decide l'onorevole Pivetti, quali sono quelli benefici e quelli no. Cioè, non è che in virtù del fatto che c'è una onlus, allora va tutto bene. Grazie. Enrico da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Vada. Prima parto con una considerazione effimera. Io continuo a sorridere spesso perché so che a lei dà abbastanza fastidio, come giusto che sia, se la chiamano in TV e le danno in radio e le danno del tu. Continuo a non capire perché spesso serviscono dandole del tu. Cioè, premesso, volevo condividere con lei una riflessione. Ho capito, scusi, non ho capito bene. Vuole darmi del tu, mi dia del tu, ma cosa vuole che le dica? Cioè, chi è che è caduto? Enrico? È caduto? Riprendetelo, va. Erminio dalla provincia di Cagliari. Salve. Salve, signor Erminio. Io vorrei intervenire sulla questione dei Rutelli, no? Che ho sentito ieri. La questione di Rutelli, sì. Quando è intervenuto nelle trasmissioni, no? Sì. Pare che proprio la parola divisione, così sia l'ultimo dei suoi problemi. Dice che lui è proprio quello più incazzato di tutti, perché non si è accorto che un suo uomo di fiducia, così a quanto pare... Sì. Abbia rubato, siamo i stati soldi. Fregati, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì, sì, ma è pazzesco, perché poi tra l'altro dovrebbero essere soldi cioè dallo Stato, giusto? Poi quest'uomo qua che è in politica da 20 anni, da 30 anni, cioè se non se ne è accorto dovrebbe dimettersi perché è un inetto, come minimo, giusto? se invece se ne è accorto dovrebbe dimettersi perché ha rubato anche lui. No, niente, quindi mi lascia così stupito. Sì, ma non ho capito bene, scusi Erminio, lei dice Rutelli non lo sapeva e dunque è doppiamente colpevole perché avrebbe dovuto sapere come e quando venivano utilizzati questi quattrini. Cioè, aveva la firma lui su questo. Guardi, dal punto di vista politico, non c'è dubbio che ci sia una una cosa incredibile, cioè dal punto di vista politico c'è, non dico una sottovalutazione, ma un omesso controllo che è spaventoso. Su questo non ci piove, su questo non ci piove. Dal punto di vista poi, come dire, dei reati, adesso francamente non credo che ci sia nulla. La cosa certa è che fosse successo ad altri, secondo me si sarebbe scatenata la muta dei magistrati. Va bene, Paolo, provincia di Monza. Intanto Roma nel caos, catene obbligatorie. Sì, ma lo sapevamo, Lo diciamo. Sì, vada. Pronto, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Innanzitutto volevo esprimere la mia simpatia per Parenzo, che ogni tanto viene distrattato dalla gente, invece penso che sia una persona solare che ravvivi molto anche la trasmissione. Detto ciò, volevo fare un commento. Amico sincero, grazie. Sono un amico, grazie. Volevo fare un commento relativamente all'accaduto, cioè all'intervento che ha fatto prima la ex onorevole Pivetti. Intanto mi è sembrata molto, come dire, nervosa, esprimeva nervosismo in tutte le risposte e faceva assolutamente trasparire il fatto che non si sentiva assolutamente serena di quanto lei fa e pratica, perché la casta non finisce sulla questione del posto, come dire, delle attività professionali non c'è dubbio. Sul resto ha difeso l'ufficio, eccetera, ma sull'attività professionale, se uno non può dire, qui c'è solo la Onlus e poi si scopre che in realtà l'ufficio viene utilizzato anche per attività professionali, perché noi all'inizio avevamo capito questo. Poi io, perché non me la immagino la Pivetti a casa sua che manda l'email, gli inviti. No, ma va tutto bene o male, non lo so, a seconda di quello che potete pensare voi, però dopodiché bisogna anche dire le cose. Finché lo fa per i cavolacci suoi e non per me va tutto bene, anche che siccome l'ufficio c'è, finché non viene tolto, ormai dovrebbe essere tolto. Dopodiché, una volta che c'è, è evidente però, che uno lo utilizza anche per altre cose, no? Una persona seria, trasparente, capace e dal punto di vista etico che fa? Non ne approfitta dell'ufficio, dice: signori, è una cosa sbagliata. Nessuno la toglie, la lasciano aperta e mi permette di lavorare a spese dei contribuenti. Non lo faccio, la lascio lì ferma, perché non esiste proprio. Allora ce ne approfittiamo tutti di tutto e va tutto bene così. Una persona che si vanta e che risponde anche a tono, permettendosi di dire che lei fa comunque privatamente il tutto e in realtà usufruisce di uffici pagati dai contribuenti, non è assolutamente una cosa non è assolutamente una cosa che si può concepire e far passare in questo modo. Quello che voglio dire io è che appunto molte persone parlano di casta e se ne approfittano durante la propria attività, ma qua c'è di peggio, perché questa persona, non so, mi dica lei, cos'è, 15 anni che non opera più a livello istituzionale? Non fa più politica nella vita. Lo so, purtroppo non è che si può obbligare, anzi il fatto che non faccia più politica da un certo punto di vista è positivo, perché invece gli ex presidenti della Camera continuano a fare in qualche modo attività politica. È anche positivo che uno non abbia più quel tipo di attività, significa che uno si è dedicato ad altro, però nello stesso tempo si utilizzano le stesse strutture. Che vuole fare? È comodo, l'ha detto lei, sto al centro di Roma, altrimenti dovrei sborsare dei quattrini per avere un ufficio al centro di Roma. Chi ce lo può avere un ufficio al centro di Roma? Magari anche alla Camera. Deve dimostrare di essere una persona seria ed eticamente a posto, dicendo: signori, io rinuncio a questa cosa qua perché non voglio pesare sulle spalle di contribuenti. Ma dove l'ha trovata una persona così, lei? Guardi, abbiamo sentito prima che parlava. Io non sono della corrente politica di Bondi, però ho sentito comunque una persona seria e posso pensare che possa essere uno che non possa approfittarsi di queste situazioni, che possa anche tirarsi indietro. La signora Pivetti invece, ahimè. Vabbè, intanto pare che Alemanno, grazie a chi era? Non mi ricordo più chi era, Paolo. chi è che me l'ha cancellato, maledetti, dallo schermo. Maledetti, adesso poi esagerato, ma no, maledetti. Ma in senso buono, naturalmente. Alemanno, intervista al TG1, ha detto praticamente che il problema è grave sulle consolari e dunque mi appello alla provincia e a tutte le autorità competenti. In sostanza dice a Zingaretti, date una mossa, anche in questo caso purtroppo nel casino di Roma prendono il sopravvento, come dire, gli scarichi di responsabilità, no? Non è solo colpa mia, la colpa è più di quello, di quell'altro, cioè, ma non si può dire semplicemente che Roma è spesso impreparata a queste cose. A Milano in questi giorni, dove c'è stata, come dire, qualcosa di, no, di comunque di consistente, una caduta, cioè, neve eccetera, mi sembra, adesso non è che voglio fare ancora una volta l'elogio di Pisapia, sarebbe successa la stessa cosa probabilmente con un altro sindaco, però insomma, mi sembra che tutto sia stato organizzato. Roma spesso è impreparata, ma qualsiasi, ce le hanno gli sparaneve, qualsiasi amministrazione ci sia, è impreparata a eventi del genere e lo sarà sempre. Alemanno, Rutelli, mio nonno in carriola, qualsiasi altro sindaco sarà sempre impreparato perché nessuno ci pensa a eventi di questo tipo, no? Vincenzo da Roma. Buonasera dottor Cruciani. Senta, io la chiamavo proprio per la situazione di Roma, perché oggi pomeriggio ho vissuto una situazione a poco dire così paradossale, no? Adesso per i non romani magari non sarà facile, come dire. Che situazione ha vissuto lei? Che situazione ha vissuto? Dunque, io sono arrivato a Tiburtina, che dovrebbe essere ormai, in realtà lo è già, ma a breve dovrebbe essere il nuovo centro strategico. La mega stazione dell'alta velocità. Allora è arrivato come? È arrivato come? Prigioniero all'interno della stazione Tiburtina. Intanto ho aspettato tantissimo la metropolitana con un freddo polare, già questo mi sembra un tantino strano. Poi sono arrivato, sotto non c'era nulla, i treni delle ferrovie non passavano da ore, non erano neanche segnalati ritardi. Fuori era il Polo Nord, ma una situazione allucinante, cioè non c'era nessuno della celebrata task force della Bolverini e del sindaco Alemanno, che pure vuole dire, sa, qui non siamo a Canazei, se prevedono una nevicata di questo tipo con giorni di anticipo, piuttosto che fare la task force, come dire, converrebbe preparare qualcuno ad intervenire. La gente scivolava, non si reggeva in piedi e tornava dentro, sembrava un film Hitchcock, la gente devo dire la verità, però mi scusi, cioè, sicuramente la situazione, però non è che la task force significa che a ogni angolo della strada c'è qualcuno che non si sa bene chi possa essere, per aiutare le persone a attraversare la strada, perché Completare il pensiero. Io, per fare il mio esempio, ho dovuto fare 4 chilometri a piedi, che era l'unico punto di salvezza, perché erano praticamente pomeriggio, già cominciava a imbrunire. Quindi se avessi atteso ancora un po' sarei calato nel gelo e forse chissà dove sarei andato a finire. Ho rischiato più volte di cadere, ma le assicuro che nel serpentone continuo che andava per tutta la tangenziale non ho visto uno, a parte qualche vigile urbano esemplare, uno del comune che facesse qualche cosa. Ora poi torno a casa quasi congelato e apro le televisioni e le radio, direi di regime, ma lasciamo perdere, sento dire che la task force era operativa. Allora io mi domandavo oggi, no, se venissero a fare un servizio da una televisione, una radio, un giornale estero, per vedere la nuova grandissima centrale delle ferrovie per l'alta velocità, o qualcuno a valutare Roma per le Olimpiadi, insomma faremmo una figura barbina. Allora, semplicemente, senza volere, come dire, prenderla col nero, il giallo e il rosso, dico forse che invece di parlare molto più umilmente, le nostre istituzioni farebbero bene a lavorare. Sì, però è anche vero, mi scusi, sì, non voglio, per carità, a me non me ne frega niente di Alemanno, non me ne frega niente di nessuno, però bisogna dire che è una nevicata molto pesante, pare che sia la più pesante degli ultimi 30 anni, forse di questa portata non era nemmeno prevedibile, cioè non, poi per carità, ma è giusto scaricare tutto su chi è responsabile, perché ma domani, su chi ha responsabilità. Ma domani, non so che cosa ha detto il sindaco, l'ho sentito poco fa, che da mezzanotte alle 6 si può transitare solamente con le catene. Ma si rende conto, sì. Forse oggi, oltre a chiudere le scuole, poteva dire. Facciamo andare soltanto i mezzi pubblici e vediamo che va. Anche per i mezzi pubblici è complicato, non è semplice. I mezzi pubblici erano i bordi delle strade, non potevano camminare, molti avevano scritto deposito. Cioè, ma per forza, ma perché qui a Roma non avete le gomme da neve, è evidente. Traffico, no? Torniamo tra un po'. Strade in diretta. Restano chiuse a tutte le categorie di veicoli la 25 Roma Pescara e la 24 Roma L'Aquila Teramo tra Carsoglio Ricola e Torano in direzione di Teramo. Autostrade per l'Italia continua ad attuare diversi dispositivi di fermo per i tir e in prossimità dei blocchi e dei controlli sono possibili rallentamenti anche per i veicoli leggeri. Sull'autosole all'altezza di Parma i tir diretti a Sugd vengono deviati sulla 15 della Cisa. Non bisognerebbe mettersi in viaggio se non strettamente necessario. Al centro Italia e la perturbazione si sta estendendo al sud. Arriverà la neve fin su pianure e coste di Molise e Puglia, già attorno ai 200 metri di quota sulle altre regioni peninsulari del meridione. Ne torniamo tra un'ora. La Zanzara. Siamo qui, Lorenzo da Milano. Lorenzo, buonasera. Lorenzo, vada. Buonasera. Sì, sì, la sentiamo, vada. Ho perso la sciarpa qua. Hai perso, che hai fatto? Oh mamma, ho perso la mia sciarpa. E vabbè, che dobbiamo fare? Dobbiamo... No, lo so, adesso però... Avete visto una sciarpa per caso, ragazzi? Qua? No, ma noi possiamo anche fottercene di questa cosa, siamo liberi di fregarcene di questa roba tua, che hai perso la sciarpa, siamo liberi qui alla Zanzara, negli ultimi 6-7 minuti, e di fregarcene del fatto che tu hai perso la Zanzara, roba, dove, però, l'hai persa? Direttore. Aspetta un attimo, ti fa una grande esclusiva, Grande esclusiva, alla Zanzara il direttore del TG della 7... Enrico Mentana. Ma ti perché? Regalo questa esclusiva, andiamo al 20% di share. Perché lo dico. Fa sempre così? Perché fai perché sempre? Perché qui davanti a me il direttore. Perché fai sempre così? Aspetta, perché... non si può Oddio fare mio. Fai sempre così. La solita scena. Ciao Enrico, fa sempre così, fa sempre così. Che devi fare? Io non so che dirti. Ma vai, tu sei lì che aspetti di sapere se vai a vedere quando vai a vedere la partita dell'Inter o no? O non te ne frega niente, non ci vai. Perché posso dire che non te ne frega davvero di andare in bianco in tutti i sensi, perché praticamente qui è una gara contro il tempo a perdere, perché è l'unica partita che è stata anticipata e ritardata e sarà anche annullata. Quindi alla fine sarà annullata. Senti, ma quante responsabilità secondo te da 1 a 100 alle mani in questa situazione di Roma? Dimmi la verità. Devo dire la verità. Sì, la verità. Da 1 a 110, cioè non... Io c'ero già qui a Roma nell'85, fu la stessa cosa. Cioè Roma è istituzionalmente impreparata ad affrontare queste cose? Non è che è istituzionalmente impreparata. Roma intanto è una città, quando si dice Roma la città dei sette colli, cioè Roma è una città piena di saliscendi. La cosa peggiore per la neve, una città in cui nessuno ha le gomme della neve, perché nessuno va a Milano o a Torino, sì. E c'è una parte della popolazione, una porzione sostanziosa che è abituata a fare i weekend in montagna, quindi sa cosa vuol dire dotarsi delle attrezzature antiscivo, chiamiamole così. Qui è cosa totalmente sconosciuta. Oggi ho girato e c'era gente terrorizzata, oltretutto c'era gente che nonostante nevicasse fitto, come può succedere a Bressanone, andava in giro in motorino. Dunque anche i romani ci mettono del loro, insomma, in questa... Sì, ma insomma, devo dire che Alemanno, insieme a tanta impreparazione, perché ho visto pochi, ma non so neanche poi quali siano le responsabilità, e i mezzi spargisale, c'era veramente poca roba nel tamponamento. Invece la cosa preventiva fatta ieri delle scuole è stata decisiva da molti punti di vista, perché sennò oggi altro che in tilt andava il traffico. T'ho fatto parlare di una cosa seria, ma Parenzo ogni tanto imita Bossi anche quando è lì nei corridoi, oppure no? Si esercita. Però l'effetto è lo stesso, cioè così come in radio anche di persona non gli assomiglia per niente. No, questo è vero, ma lo sai, devo dirti una cosa, il trucco vero è che in realtà non è tanto importante l'imitazione in sé, quanto il primo passaggio, cioè il primo passaggio che è decisivo, cioè la segretaria eccetera. Poi è vero che l'imitazione è così, però è la stessa cosa che fece all'inizio Berlusconi con la premiership, hanno continuato a crederci per 18 va bene, ciao. Presto. Allora, dove siamo? Lorenzo, come dici? Ha detto che non sai imitare Bossi bene, però vabbè, questo no, io non so, infatti. La cosa grave è che ci continuano a cascare. Aspetta che sono rimasto adesso bloccato qua. Chi c'è qua? Lorenzo, chi c'è? Lorenzo, no, volevo buonasera. Farti. Eccoci, era Lorenzo, prego, scusi. Buonasera, Lorenzo. Un regalo volevo farti, No, aspetta. No, ma è bravo quando imita Bossi. Ma sì, è bravo, è bravo. Ci sta dentro. Una semplice domanda che mi incuriosisce da mezzo, perché ci riflettevo in questi giorni, sentendo cosa ha combinato quell'estofante di Lusi. Mi chiedevo, ma questo signore, questo avvocato, e è reo confesso. Cioè questo qua prenderà la pensione di Stato per essere stato parlamentare. Beh, certo, la pensione in futuro la prenderà, non c'è dubbio. Non è che quella si toglie. Non è che si toglie in base, non credo che si possa togliere in base a responsabilità. Non è interessante sta cosa, ma non credo. Guarda. Cosa da poco, cioè, no, ma non credo che si possa, come dire, non ottenere la pensione a meno che non sei un assassino, cioè non hai commesso un omicidio o cose di questo. È un diritto acquisito che non è che si cancella. Guardi, nemmeno con gli assassini, credo. Adesso, per carità, Lusi non è assolutamente un assassino, non voglio fare un paragone, no, era un paradosso, però non si può negare, cioè la pensione da parlamentare, il vitalizio, non credo si possa negare nemmeno a uno che ha commesso un omicidio, per cui figuriamoci. No, una... non lo so. Non credo. Interessante. Insomma, non male sapere che questo ha rubato, perché si continua a dire sottratto, perché sta male dire che ha rubato, ma questo ha rubato 13 milioni di euro che lo Stato italiano, ovvero il popolo italiano, ha dato come finanziamento alla Margherita per svolgere attività politica. Questo li ha rubati e questo prenderà anche la pensione per aver reso questo servizio allo Stato. Lorenzo, sì, penso che nel futuro sarà così, se ha fatto una legislatura, eccetera, eccetera, prenderà anche la pensione, nonostante il fatto che magari si dimostrerà, come ormai evidente, che ha sottratto dei soldi pubblici, che sono quelli dati attraverso il finanziamento alla Margherita. Lorenzo, il suo stupore è anche il mio stupore, però in realtà dovrebbe essere così. Grazie, Massimo da Roma. Buonasera Cruciani. Buonasera. Vada. Allora, io sono uno dei dannati raccordi per sia esterna, nord di Roma. Sì. Allora? Le volevo dire che dall'una e mezza che io sono su raccordo, devo uscire all'Aurelia, per chi conosce un po' Roma, sono all'altezza poco prima della Cassia, non è mai passato nessuno, io vedo nella macchina a fianco a me, diciamo, non sono preoccupato. In macchina? Sì, sono dall'una e mezza. Sì, ma molta gente, ma... Ma allora, guarda, devo raggiungere l'uscita dell'Aurelia. Io vi do un consiglio. Se avete un piccolo computer, un iPad, un cellulare, e potete navigare in internet, per tirarvi su, mentre siete bloccati, leggete i discorsi alla camera di Cicchitto. No, ma infatti è una delle cose che stavo già, tra l'altro, facendo, fatelo, alcune altre esercizi zen che possono essere fatti in questo momento. Ma la cosa, i discorsi parlamentari di Cicchitto, fidatevi, vi tira su, amici che siete in macchina. La cosa preoccupante per cui ho telefonato è che, da padre di famiglia, vedo che nelle macchine a fianco ci sono anche dei ragazzini. Ci fosse stato uno dell'ANAS, uno della Protezione Civile, uno semplicemente che avesse detto: guardate, da qui a 30 chilometri è l'inferno, uscite, difficile controllare, difficile controllare tutta Roma, eh. Poi magari il suo esempio è uguale a quello di tanti altri, ma è complicato, organizzare una sorta di monitoraggio del genere. Continua, la realtà, a dedicare comunque, eh. Ci sentiamo lunedì 18:30 alla Zanzara. Se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma senti questa roba qua, ti piace così? Va bene. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. La Zanzara.